stanza da letto, mentre Nibel, Lieto e Ora hanno parlato un po' fra di loro, ma ho realizzato adesso che ce li ho gli appunti della scorsa sessione, quindi andiamo a guardarli. Anche perché questa era tipo a metà della sessione, è la prima metà della no, sessione. No, prima, per questo siamo all'inizio. Ah, ok. E... scusatemi che la prima frase che ho letto è ceniamo con cibo AI generated, vabbè. appunto loro Ora e Lieto parlano e cioè prima di appunto dopo cena escono a fumare, chiacchierano, Nibel ha raccolto un po' della sua vita che è un minatore, Lieto fa un commento classista del tipo ah ma perché ci sono ancora i minatori, c'è ancora bisogno di voi, e poi okay. Nibel comunque chiede se Nibel appunto chiede a Lieto se è solito cadere dalle soffitte e Lieto invece spiega che il suo gruppo diciamo di compari è sempre stato un po' di freddo, ha sempre dovuto scappare, correre da qualcosa. Poi Lieto va a disturbare, cioè vanno a dormire, no, Lieto va a disturbare Miffeadone così a caso, buffo. C'era stato un rumore. No, e adesso ci arriviamo. Sei andato prima a disturbarli a caso, prima che iniziassero sì, a fare. Sì, è vero, sì, cose. Sì, avevo bussato. Sì, sì, sì. Avevo bussato e ho detto ciao e te sei andato. Vabbè. Sì. Arriva fino a... cala la notte, i lupi si svegliano. Visto Dio. Adesso torno serio. Appunto, durante la notte, tutti cercano di dormire finché Nibel sente un rumore particolare, il rumore di un tuono, allora sveglia Lieto e vanno a investigare assieme su cosa stiano facendo Miff e Adone. Trovano Miff che esce dalla stanza, però la trovano fumante letteralmente e con qualcosa tipo sotto la sua camicia. Si parla un attimo, comunque si assicurano che Miff sta bene e dopodiché se ne tornano a dormire allegramente, mentre lei prende appunti di qualcosa. Passa la notte senza altri intoppi, almeno per loro tre. Chi si sveglia? Lieto e Miff cercano di creare la colazione, mentre Nibel e il Vescovo parlano di divinità e spiritualità. Sì. Appunto Nibel racconta un po' di suo padre. E intanto Lieto crea questa colazione totalmente aliena a tutti, ovvero latte e cereali. Miff comunque va in giro ad offrirla in maniera in maniera molto divertente. Finalmente Miff va a svegliare Adone, che tutto questo, cioè io mi sono fatto tipo un'ora e mezza di sessione a dormire. Miff va finalmente a svegliare Adone, solo che fallisce perché chiaramente è in coma praticamente. Allora va a svegliare Ora, che intanto sta pregando a quanto pare, sta facendo delle cose. Che ha provato a fare delle cose con i malapenni, però sono, ha avuto successo e non sa come fermarsi. Come trovano la soluzione per fermarsi e far esplodere qualsiasi cosa stia facendo Ora, e vabbè, tutto è a posto, quindi c'è un buco nel muro adesso. Dopodiché si torna a svegliare Adone, e intanto Miff racconta tipo dell'esperimento che ha fatto con Ora. Dopodiché finalmente una volta tutti riuniti, risvegliati eccetera, si va giù, si decide cosa fare. Miff, Adone, visto che nel pomeriggio bisogna incontrarsi con quel contatto di Miff, la mattina Adone, accompagnato da Lieto, va dalla speziale e poi compra pure il giornale. Intanto Miff e Nibel fanno degli esperimenti con il manapenny che risultano essere abbastanza... fruttuosi, in un certo senso, fruttuosi, fungosi, uno oserebbe dire. Comunque, appunto, sappiamo tutti cosa succede, quindi non vi faccio il resto di questa roba. Solo che una volta Ora poi dà un'occhiata e dice, beh, bello, Nibel sta morendo, ottimo così, torna Adone con Lieto, si discute, Adone vuole spaccare in due la testa di Miff, però tutto ciò viene interrotto da qualcuno che sfonda la porta della chiesa e chissà chi sarà. La corona nera. Do not spoil. E qualcuno ha gentilmente dato limoni e ci tireranno contro e lo utilizzeranno come arma. Ma com'è che... cioè, è la corona nera, ma cos'è che succede? Sparano al vescovo! Porco di vero! Il vescovo, no, raga, bisogna importante. Ucciderli. È un vescovo di Mio meme. cane, raga. No, no, no, No, cioè, no, no, no. adesso è beef puro. Dai, raga, poverino, lui ci sta aiutando come non nessun altro prima d'ora. E È mi adesso furo. muore per colpa. Non dire per Di colpa mia perché io ti uccido. chi? Di Beh, qualcuno lì. deve essere. Esatto. Ma uccidetevi tutti, Dio cane, quello che fa esplodere la Potevi gente, come tranquillamente poverino. chiedere di farti dormire con Onero, ma anzi per quella notte no, hai dovuto per forza prendere. Stavo per dire l'antistaminico, il sonnifero. Oh, chissà perché, è stata così una bella esperienza. E iniziamo. Sì. Io non mi ricordo più che in iniziativa Ma quanto. aspetta, hai zitta un attimo. Sto fa la presentazione, mi stai rompendo il flow. Cazzo. Dicevo. Il vescovo cade a terra. Non c'è un proiettile, è stato più un raggio laser, una roba di luce che gli ha passato da parte a parte la spalla. E ora, come per riflesso, scatta verso il prete, verso il vescovo, e inizia a guarirlo come può. Le cinque persone veste di nero, le cui immagini vi ho mandato su Faithful, sono disegni fatti da una persona che non sa disegnare. E entrano nella cattedrale e si dispongono come le vedete su Roll20. Al centro c'è la tipa con i capelli ricci, mezza nuda. Sulla sinistra c'è il tizio grosso. Quindi li cambio di posto, scusate. Sulla destra c'è il tipo con l'arco. E dietro ci sono le due tipe che si stanno. Stanno in posa, stanno abbracciando, sono strane queste persone, non stanno bene di cervello. E a sparare è stata la tipa con i capelli ricci mezza nuda, che con la pistola ancora fumante guarda verso di voi, squadrandovi uno alla volta, e dice: qualcuno di voi ci ha mancato di rispetto. Non si fa. Adone, vedendo comunque il vescovo, si avvicina e... No, sai cosa? Vaffanculo, io evoco il mio coniglio subito e immediatamente, pezzo di merda. Vai, te lo metto. E avevamo già fatto le schede con tutto segnato giusto, giusto? Ricordo bene. Sì, tecnicamente sì. Quindi Adone, hai rollato 7 di vita massima. Bene. Yeah. Io pugno il mio piccone. Sì. Allora, hai 7 di vita massima e 5 di mana. Il mana dovrebbe essere base perché non c'hai le stronzate strane, no, infatti. Quindi sì, semplicemente spendi il mana per evocare, per fare Summon Familiar. Costa 2. Lo evochi al livello 4. Sì, evochi il coniglio a livello Tecnicamente sì. 4. Sì. E uso Rod come coniglio. Ok, Tanto perfetto. c'hai i Ma ranger per perché? evocarlo? Oh, non c'ho di cercare un coniglio. Entro M celle, quindi entro 3 celle. Puoi scegliere dove evocarlo. Oh cazzo. Entro 3 celle da te. E me lo metti... sì, mettilo distante. Davanti. Più distante possibile, sì. E Ok. dopo di posso? Ah, ok. E dopodiché mi casto overpower su di me. Puoi fare due spell in un turno? No, hai ragione. Allora basta, ho finito il mio turno. Perfetto. Qualcun altro di voi vuol fare qualcosa? Altrimenti faccio. Cioè, continuo il monologhetto. E me vai. Sì, vai. Ok. La donna dei capelli ricci molto gonfi sta giocherellando con la pistola e dice: può finire in due modi. Il primo è che ci ripagate i danni e non vi fate mai più vedere nella mia città. Il secondo è con le vostre teste impiccate. La tua città? Impiccate. Già. Non mi pare la città sia di una sola persona. Oh, mi piacerebbe molto spiegarti i dettagli di questa cosa, ma non abbiamo tempo. Io guardo Adone e dico: tutto questo per una porta? Credo che... Io ti guardo, poi guardo la tipa e dico: credo che qua gli unici che abbiano mancato di rispetto siete voi. Per la nostra famiglia l'onore è molto importante. E se lasciassimo che i primi stranieri si vengono qua e fanno quello che vogliono, perderemo la faccia? Famiglia? Quale famiglia? Lei tira su la pistola e noti che ha un anello nero intorno all'indice. Ah... Che per gli altri credo non voglia dire un cazzo, cioè. Tecnicamente no, io non so sta cosa. No. No, neanche me. Non sono sicuro vogliate intraprendere questa strada. E come ci stanno sparando addosso, forse capire con chi abbiamo a che fare è la cosa migliore. Vi dico, sono una donna ragionevole. Abbiamo fatto due conti. Ci date un centinaio di monete e noi ce ne andiamo in tranquillità. È una porta! La porta, i danni morali, i materiali. Avete spaventato molto il mio amico, e indica il tizio grosso e enorme e palestrato. E con un vestito che chiaramente è troppo stretto per lui. E dietro tira fuori tipo un taccuino, una penna. Va bene, come vi chiamate voi? No, no, no, niente assegni. Sull'unghia pagate. No, no, no, non ci siamo capiti, non è un assegno, mi sto segnando i vostri nomi. Pensi di poterli dire a qualcuno quando andrà all'inferno? No, penso di poterli dire a quello che probabilmente è uno dei vostri capi. Voi non reagite? Voi tre? Cioè, mi fa che sta tipo guardando lieto, come per dire: ok, he knows some shit. Per ora non interferisce ancora. Io abbasso la testa, piego le ginocchia, sono pronto a caricare al momento. Non... Visto anche gli ultimi eventi, ho pochi cazzi per stare dietro a sti qui. Adone si avvicina a Lieto mantenendo lo sguardo sulle altre persone, poi si avvicina a Lieto e dice: Lieto, è sicuro sia una saggia idea provocarli così? Lo scopriamo subito. E scrivacchio il nome di Promezia, il vero nome di Promezia, sul foglietto e lo allungo al primo tipo davanti a me. Sono molto lontani, cioè voi siete... Mi avvicino con molta calma. Superi il coniglio. Non c'è problema. Tutti e cinque loro vacillano, nel senso che vedere questo ragazzetto che cammina in avanti è strano. Ok, c'ha delle JoJo vibes. C'ha Jotaro versus Dio vibes. La tipa con la pistola fa cenno al tipo con l'arco di prendere il foglietto. Il tipo con l'arco fa dei passi avanti e ti arriva in faccia e prende il foglietto. Lo guarda, ti guarda e dice: dovrebbe dirmi qualcosa? Probabilmente a voi no, però portalo a chi di dovere, probabilmente qualcosa ne sa. Lui fa un paio di passi indietro, lo passa alla tipa, la tipa lo guarda, lo appallottola e lo butta per terra. Siete proprio dei... I guess I tried. Quant'è che costa palla di fuoco? Sono contento che tu l'abbia chiesto. Allora, Fireball costa 3. Al momento sei full mana, che è 4 il tuo mana. Perché 4 il tuo mana? Boh, dovresti avere 2. Sono affidato ai tuoi conti. Sì, non so perché c'hai un più 2. Sì, no, c'hai un più 2 a cazzo. C'hai 2 di mana, quindi devi spendere 2 tutto il tuo mana e 1 di fatica. Non c'è problema. Perfetto. Quindi hai 0 di mana e 11 di fatica, mi sto segnando ste robe qua. Vai. E Fireball, come forse ti ricorderai, crei una sfera e la puoi spostare di fino a 5 più m celle, quindi di 7 celle. La sfera esplode quando entra a contatto con qualcosa, infliggendo un di 4 più 2 danni da fuoco. No, 3 di 4 danni da fuoco al bersaglio e la metà a quell'intorno. Yeah. Alla tipa dritta davanti a me. Deve rollare lei per resistere ai danni. Dammi solo un secondo. Yes. Non l'abbiamo mai lanciata sta spell, quindi non me la ricordo benissimo. Quanto ha la sfera? È raggio? Sì. La sfera è puntiforme, però si sposta di 7 celle, cioè fa proprio 7 movimenti, come se si fosse un personaggio che si muove. Aspetta, ho segnato l'esperienza ad Eddie e ora segno a te l'esperienza. È ontica, no? Sì. Quindi ne becca 3, tipo, funziona così. E becca, aspetta che riguardo il raggio per sicurezza. Quell'intorno, no, ne becca solo uno, perché esplode su di lei. Okay. Cioè, giusto? Esplode qua. Ok. Se la facesse esplodere qua, farebbe metà danni a tutti. Ok, ho capito. Come vuoi, Eika. Cioè, no, dimmi. È nei denti alla tipa. Nei denti alla tipa. Allora, resisto con 5 più questa roba qua va nerfata. 4 più 3, 9 più 3, 12. No, c'è un pittito. Sì, ho visto. Col cazzo che lo evita. E lei prende full damage dalla palla di fuoco, puoi rollare 3 di 4. E rollo per l'altro. Anche l'altro non lo evita. Per l'altro è... è 3 di 4 fratto 2. Cioè rolla 3 di 4, facciamo la metà e approssimiamo. È 3 allora. Se, cioè dipende se lo vuoi per eccesso o per difetto. Per difetto. 3. No, ma teniamo il primo risultato o vuoi rirollare? Come vuoi? Ah, ma rirollo, dai, vediamo cosa succede. 5. Hai visto, 5 danni. E sto segnando tutto, datemi un secondo. Guarda se c'ho dell'abilità del cazzo per sta roba qua. C'ho niente, perfetto. Lieto ha aperto le danze facendo movimento, azione, eccetera. Quindi ora tutti noi rolliamo priorità. A meno che non abbiate una classe che vi dà bonus a priorità, è un D20 pulito. Non vuoi anche il mio o siccome sono il primo? No, eh? Tu sei fuori dal turn order, cioè okay, sei... Ma chi è che ha tirato 20 naturale di Occane? Qualcuno. Sicuramente qualcuno. Anzi, visto che sono io a sceglierlo... Oh cazzo. Quanto. Ok, questo è 0. Li devo segnare tutti, ho bisogno di un secondo. Certo. Nibel quanto ha fatto? 10. Ok. Canzone è questa, è fighissima. È di Undertale. Non lo sento perché sono da cellulare. Ah, mi spiace. Sì, sì, è di And. No, è di Deltarune, mi sa. Ah, stai sicuro? Sì. Risponderti non me le ricordo abbastanza tutte quelle di Undertale. Potrei sbagliarmi, però sono pretty sure. Il coniglio fa il turno insieme a te? Eh? Sì. Ok. Mi sembrava, però te lo chiedevo per sicurezza. Sì, sì, sì. Manca a segnare Mif, che ha fatto 11. Sì. Ok. E quindi, ho fatto un 20, quindi parte per prima la tipa con i capelli ricci che si è appena presa una palla di fuoco in faccia. Non l'ha presa bene. E facciamo così. Spara a brucia. No. Questa è un'azione extra. Sì. Casta un'aura. Rally. Tutti gli alleati hanno più 2 precisione per il loro prossimo attacco. Quindi. Boh, hanno un bonus. Me lo segno con un puntino verde. Quello che vedete voi è che questa tira un urlo. Un urlo di incoraggiamento. E poi spara a Lieto con la sua pistola. Più 4. 13. Lieto ha 9 di evasione, se lo prende in faccia prendi un di 8 danni da oscurità. Hai resistenza a danni da oscurità? Mi pare di no. Lo supponevo anch'io, prendi 5 danni. Ok. E vai a 7 di vita. Azione base, azione extra. Vabbè, ricarica. E fine del suo turno. Tocca ad Adone. Ok. Allora, direi che casto Yu-Yu sul mio coniglio. Bnuo. Lo Bnuo. Allora, Yu-Yu costa 2. Vai a 0 di mana. Yes. Sì, hai finito il mana. Vabbè, c'è la fatica. Sì, sì, sì. Yu-Yu quanto dura? Ah, è infinito? Fammi vedere. Cioè, finché non perde più, ok. Adesso? Ok. E dopodiché, di quanto si muove lo Bnu? Ottima domanda. C'è scritto sulla scheda, su Pentagon Spread, credo 5. Perché è un gatto, in realtà, cioè la scheda è quella del gatto. Esatto, è un gatto. Sì. Il gatto dovrebbe avere 5. No, 6 addirittura. La madonna. Ma è il velocissimo. The fast. Ok. La tipa è quella con il token viola, vero? È questa qua, la tipa. Perfetto. Allora, lo Bnuo si spara flash in faccia a lei e lo attacca con un morso. Non mi ricordo. Sì, sì, sì. Morso, un di 10 più 4. Ok. Può... 8. Mm-hmm. Questo è un miss. Davvero? Eh sì. Che cane. E allora mi sa che aveva tipo un quadratino rimasto e non fa un passo indietro. Non si può fare. No? No, su Pentagon il movimento è... Cioè non lo puoi usare in due volte come su D&D. C'era un'abilità per farlo. Ok, sì, sì, sì. Perché c'hai la casa di Dragon Ball Super. Ma sai che è la seconda di Dragon Ball che passa? Ce n'è anche un'altra. E Gaza, comunque. Niente, fine del mio turno. Vabbè, lascia fare, cioè ci hai provato, non è andato a segno l'attacco, però hai fatto le tue cosine. Sono anche gli altri, magari. Tocca a Mif. Ok, Mif si muove di 3 caselline e casta Terrify. Su? Io posso decidere quanti bersagli? Cioè, c'è scritto i bersagli entro... 3 PRS celle che ti possono vedere resistono. Credo che ci sia da qualche parte sul Pentagon scritto che tu puoi usare un'azione extra per avvisare gli alleati. I mean, lo fa. E ok. Quindi tutti quelli che ti vedono. Tutti quelli che mi vedono sarebbero. Però è anche vero che io ho stregoneria 2. Mm-hmm. Quindi in stregoneria 1 posso, qua c'è scritto che posso selezionare un numero di bersagli pari alla tua competenza. Ok, rendendo... sì, c'è quello lì. Quindi dove è che la competenza? Competenza è cultura. Cultura? Sì, okay. È 1. Ah, cazzo, 1, merda. Che poi sarebbe lo stesso valore di stregoneria. Ho scoperto perché c'avevo 2 di mana in più, Bianic. Perché? Mind power. Non si ha più... pari la tua M. Di mana, pari la tua M, 2. E poi c'avevi più 2. Base? Sì, sì, c'avevi già la formula che ti calcola... E poi c'avevi più 2. Ok, no, comunque... no, Terry, quindi puoi scegliere 2 alleati, scusami, non 1. Perché la tua competenza è quella su stregoneria, quindi riga 37, J. Ok. J. Mm-hmm. Quindi 2 alleati e basta. Sì, entro 9 celle. Entro 9 celle. Arrivo tutti fino. Tranne quello rosso. E tutti gli alleati. Ovviamente. Sono d'accordo sul dire che il lieto e il coniglio non ti vedono. Anche secondo me, e allora girati, sì. Esatto, Nibel e Adone, esatto. Così sono immuni. E proprio immuni casto... o...? Sì, sono proprio immuni. Immuni dal... Sì, immuni okay. Dal... Ok, casto Terrify e 3 io. Per S che è più alto, quindi ci arrivo e rollo. Ah, è più... No, ci arrivano tutti allora, perché c'hai più uno... No, non sei scholar, non sei scholar. Ho... Sì. Hai 3, 3 per 3 è 9. Giusto, 3 per 3 sì, 9. Sì, quindi più solo... 1 perché ho la cosa potenziata, Wizardry. Ah, l'avevi messo su Terrify, perfetto. Sì. Quindi in realtà quindi 12 allora prendi tutti i nemici, rollo 5 e 10. Sì, no. Ok. Allora... La difficoltà stai guardando? Sì, il 2 per è una cazzata, è 5 più M. Quindi hai 5 più 3, 8 più 3, 11 di difficoltà. No, perché 11? Stai rollando te? Devo rollare io. Devo rollare io perché sono test di resistere. Resistono l'8 e il 9. Se li vado nell'ordine del turn order. L'8 e il 9 sono quello giallo e quello verde. Ok. Tutti gli altri sono feared. Durante il loro turno farò il test per vedere cosa succede. Ok, azione base, azione extra. Quanto costa Terrify 2? 2? Sì, me lo tolgo dai Grimori. Perché 4 quando doveva essere 5? Allora, hai 11 di vita... 11 di vita e 9 di mana? No, al contrario. No, era 15 di mana. Me l'hai messo sul mana. Sì, ma ce l'hai max? Cioè avevi rollato il massimo? Che mi sa il massimo? No, il massimo era era quanto la vita, tecnicamente, il massimo. Ah, ok. Ci sta. E c'è il roll? Che c'è roll? C'è il roll in alto. C'è il roll in alto. Ah, devi grindare. Sì, è fatto. E vabbè, intanto che cerchi te, andiamo avanti. Tocca a Nibel. Ok, allora... Devo un attimo capire il sistema. Sì, azione sì. Base e azione extra. Due azioni base, un'azione extra. A due azioni base? Sì. Azioni base sono okay. Muoversi, attaccare, dipende che oggetti, okay. Usare gli oggetti. Non puoi usare la stessa azione base due volte. Cioè, okay. Non puoi muoverti twice, almeno okay. Che tu non abbia un'abilità, eccetera, eccetera. Sì, sì. Allora, io uso la mia azione extra per fare per usare sprint. Perfetto. Quindi... qua sono 7 di movimento, ho già calcolato prima. Perfetto. Aspetta che abbassi il volume del bot. Sì, è sparita al massimo sta canzone. Corro come un toro grindando il piccone sul pavimento e faccio un attacco montante col piccone alla capa. Ok. Mi sembra un di 10, cioè sicuramente un di 10 per colpire. Ti dico tra un attimo i bonus. Sa che non hai bonus a colpire. Sì, non hai bonus al colpire, devi proprio rollare alto. Cioè sei molto ma, forte. Non uso neanche fisico? No, a meno che Cioè, dipende dall'arma cosa usi per bonus. Il piccone non ha nessun bonus, fa solo. Ah, ok, chiaro. Cioè, Ok. aumento i danni di 2 Sì. perché c'è la maestria con l'ammazzo, che però Sì. il tiro è flat. Quindi è di 10 e basta. Sto guardando se c'hai delle abilità che ti danno qualcosa. No, ce l'ho per i Due senza attacchi armi. con armi guadagnano più 1 danni e precisione, quindi è un D10 più 1 da Iron Hands. Ah, quello l'ho fatto 9 allora. E missa, c'è un po' tanto di evasione. Seconda azione, tiro un calcio. Sì, questo invece è un D10 più rosso. Più 4. Più 4. Mi stanchi questo. Sì, esatto. Comunque quando missi un attacco si riduce l'evasione dei nemici, quindi rende più facile colpire la prossima volta. Ok. Wariness, sta cosa qua. Vado avanti. Ancora 3 di movimento. Però non hai più azioni di movimento, perché hai fatto due azioni base e Ah, un'azione perché extra. ok, non è splittabile, No. quindi ok. Il tizio E basta, rosso quindi. resiste al fear. Vabbè, resiste, è inutile che faccio le cose. Quindi per lui il fear è durato un turno. E si mette a fianco a Nibel e prova a colpirti due volte con i pugni. Prego. C'ho 6 di evasione. 6? Cazzo, Ah no, passina! scusa, scusa. No, mi sa che è sbagliata la formula, perché dovresti avere almeno 7. Dammi solo un secondo che double checko. E... cazzo. 4 4 più il livello che è C... Ah, prende mentre quello C3 che invece che C4. Sì, è ai 9, infatti. ah, mento, buono. Sì. Ok, scusate, ora è fissata sta cosa. E probabilmente era più grande il box e nel modificarlo non l'ho corretto. Vabbè, mi becca comunque. Sì. Cioè, ora rollo per colpire. Dammi un attimo. No, può fare un attacco solo in questo turno perché si è mosso. E niente, 8, cioè 9, ti missa, ma la tua evasione scende di 1. Quindi, al prossimo Mi ha turno. colpito una volta o mi ha colpito due Ti ha volte? missato. Ti ha missato. Il 10 era per resistere al fear, e ha resistito al fear. Ah, ok, va bene, ok. L'8 ti missa perché hai 9, però ti fa scendere di 1 l'evasione, quindi hai 8. Durante il tuo turno puoi usare un'azione extra per toglierti il malus a evasione. Cioè, restaurarlo. Costa un'azione extra e uno fatica per ogni volta che hai già fatto sta cosa nel combattimento. Quindi la prima volta uno, la seconda due, eccetera, eccetera. Ok, quindi Prossimo. adesso ho 8, Sì. quindi. Sì. E quindi io fallendo due attacchi ho calato di 2 la. Esattamente. Ok. L'hai freddato di due. Conta che se usi le spell, sta roba qua puoi farci farne a meno perché tanto non serve un cazzo. Visto che spari dei missili. Quello giallo era immune ai fear. Ed è la cara Ellen, si chiama se vi interessa, che casta Shadow, sì, non devo fare nient'altro. Casta Shadow sulla sua capa, che viene avvolta dalle tenebre. Questo le dà più 2 evasione e velocità di movimento per... Movimento. Ah, era il mio eco, ho capito. Era più 2 velocità di movimento ed evasione per 2 turni. Questa era la prima azione base. Con la seconda azione base spara al coniglio. Devo schivare con 5, miss. No, ah, no, no, ok. deve colpirti lui. Anche Perfetto. qua Più. l'evasione ti scende. E con l'altra azione che le rimane, ricarica. Poi. Aspettate che devo segnarmi della roba. Tocca all'altra tipa. No, tocca al tizio con l'arco che aveva resistito al Fiar. E con la sua prima azione si muove di 5 celle. 5 qua. E spara a Mif, che è in linea di tiro. Maledetto. No, devo andare uno avanti, scusa. E ti attacca due volte. Il primo ha più 3 a colpire, il secondo meno 2 a colpire. Sul più 3 a colpire posso usare Ha fatto 1 la... e 3. Ha missato due volte. Ottimo, ottimo, niente. Questo vuol dire che ti shredda l'armor, cioè l'evasion. Ok. E su questa cosa qua non ci puoi fare nulla, scende a 7. E lui ha speso due proiettili. Aspetta che me li segno. Ok. Tocca all'altra tipa che è firata. 11, quanto avevi di difficoltà sul Fear? Era 11. Sì, mi sembra di sì. Ok, Tipo allora più ante lo livello. resiste. 5 più 3 più 3. Unlucky. Unlucky, sì. Sì, perché per gli altri, ogni volta che ripeti il test di qualunque malus in genere scende. Quindi se prima era 11, ora come minimo è 10 e quindi resiste. Ok, è libera dal Fear. Boh, è uguale a quell'altra, quindi semplicemente spara a lieto. Oh no, ehi! 10 Devo più fare 1. qualcosa? No, devi 13 ti colpisce. Devo subirmi dei danni, capisco. Sì, esatto. Sono un altro di 8. Un danno. Data bene. Ti colpisce proprio di striscio stavolta. E ricarica con l'azione extra e con l'ultima azione che le rimane, casta Shadow su se stessa. Quindi per due turni ha più 2, eccetera, eccetera. Tocca a lieto. No, aspettate, scusate. Oh, vai, vai. Sì, tocca a lieto. Vai. Lieto goes pew pew with its gun. A chi Su di. sparo? Eh sì, sto pensando. Avete delle preferenze? Vai Chi è dove ti che... porta il cuore. Ecco. Esatto, non so chi ti sta più in culo. E il più vicino in assoluto chi è? No, vabbè, il più lontano a questo punto sei dello spyro. L'importante è che spari per prima una donna. Ok, Wow. sì, mi piace il... Diciamo che idealmente fai fuori il capo e probabilmente lasci gli Esatto, altri. e gli altri se ne vanno. Indietro. Dagli al capo, mi piace il capo. Ok, Dagli al capo. non, è un po' che non spari con la pistola, devi ricaricarla prima di usarla. Devi consumare un mana penny e rollare un D6. Vai, D6. Sono il No. numero di proiettili che hai a disposizione. Sì, sono le cariche che metterò. Data 5. bene. Una la usiamo subito. Yes. E devo rollare un D6 per i danni, Un di 10 per colpire prima. Hai 10 per colpire. maestria armi da fuoco, non Datur. Sì, mi pare, no? Quindi, no, hai 0 su questo Ok, personaggio, non è allora. Zanzan. Sì. 8. Però hai maestria ontica. Giusto? Sì, c'ho uno. Ah, ok, maestria ontica ti dà, tira 2 di 6 e prendi il, cioè Lucky, la ricarica. Se vuoi tirare un altro di 6, se fai 6 è una carica in più. Tutto qua. Non sono io a lasciarlo lì, ok, non è No, funzionato, esatto. quindi va bene. E 8 più la tua precisione, che dovrebbe essere 2, fa 10. Sì, Yes. non dovresti avere altri bonus. Dimmi su chi vai. Sul boss, Sul boss. sulla tipa a cui ho sparato la palla di fuoco prima, La sulla tipa ha bestia bella. esattamente 10 di evasione, quindi lo evita. Oh no! Però, cioè, No. No. sta scendendo, l'evasione sta freddando. E hai usato un'azione base, un'azione extra e un'altra azione base. Sforzo di spostarmi più indietro. Sì, posso andare vicino ad Adone e chiedergli com'è la giornata. Vabbè. Hai i poteri di muovere il tuo personaggio, credo. Ah, aspetta, ci ho selezionato la cosa sbagliata, non mi ricordo mai questo. Ok, Intanto tocca la capa che è feared, quindi devo rollare per anfirarla. Porco dio, non riesco a scrivere. 11. Che sfiga, porca troia. Vabbè. Sì, per uno lei. E c'ha delle robe strane? Sì, ma aspetto. Spara a bruciapelo al coniglio qua. Più. E non ha svantaggio. 13. Lo prende. Quanta vita gli dà l'armatura, Eddie? Gli dà più 2, mi solo? Sembra. No, aspetta, fammi vedere. No, aspetta. 5 più temporanei per ogni tuo livello. 15. Quindi 15. E rimane 8 di armatura bonus. E... ok. Quindi semplicemente ha danneggiato l'armatura. Mm-hmm. Colazione extra ricarica e spara di nuovo al coniglio. Sì, davvero? Sì, può sparare più volte per turno. Lo missa. Ah, sfigata troia. Fine. Mi segno un bollino blu perché deve ricaricare. Tocca ad Adone. Ok. Perfetto, allora io per non saperne leggere né scrivere, Overpower me l'ero castato, no. Giusto? No, giusto, no. Ok, beh tanto non c'ho più mano. Ho mana penny? Sì. Sì, qualcuno ce l'hai ancora. Ce n'hai 6. Vai. Nel caso te li offri. Allora... Vabbè, il papicciolo. No, utilizzo un mana penny per castare passione tormentata sulla capa. Passione tormentata è quella che non posso farci un cut. No, posso resistere. Resisti 3... con difficoltà 3 più livello più 3, 6 3... 12. Puoi castarla, però devi cantare una canzone napoletana per farlo. Che non mi appartiene. Che mi piace. No, okay. Aspetta, qua non mi viene in mente. Devi scegliere l'elemento. È debole a qualcosa al momento, no, vero? Non che tu sappia. Sai cosa? Le faccio danno sacro, vaffanculo. Holy damage. E... è vero, siamo in una chiesa, dai, che è tutto appostato. Certo. Holy damage. Ora non è con noi? Ora sta cercando di mantenere in vita il vescovo. Se vuoi, vi joina e lasciamo che il vescovo muoia. No. No, va bene, mamma mia. Vietato divertirsi. Quanti danni fa sta roba? Fa un danno? No, fa S danni, fai 3 danni sacri che questa non ha nessun modo di evitare. Prende 3 danni. Perfetto. Questa è un'azione base. Allora. Ok, però non ho azioni extra da usare, movimento non lo farò, quindi semplicemente faccio attaccare il coniglio. Vabbè, attaccare il coniglio, ok, andiamo al turno del coniglio. Il coniglio c'ha tutto il suo turno, sì. Quindi 2 azioni base e un'azione extra. Sì. Vai. Di 10? No. Per attaccare lei sì, di 10 più 4 mi pare fosse. Dai, io la missi, le farei di nuovo l'evasione. Ok, ma posso riattaccarla un'altra volta? Credo. No, perché hai usato morso. Ok. No. Morso c'ha l'effetto che se ha meno di metà della vita è propizio l'attacco. O il danno, uno dei due. Ok. Lo lascio lì il coniglio, perfetto. Non ha motivo di spostarsi. Sì. Basta, fine. Non so se fare nei romanzi. Il problema è che cioè, qua non specifica. Cioè, io prendo tutti. Andiamo a leggere nei romanzi. Cioè, perché non specifica questa cosa. Allora, effetto 1 tocca un bersaglio. Quindi, questo no. Su una persona. È l'effetto 2. Effetto 2: tutti i bersagli entro quest'area resistono. Chi fallisce viene addormentato. Esatto, questo... seleziona un bersaglio addormentato e infliggili danno. Sì, Non so, cioè non so se fare gambling o meno sugli altri. Perché ho sempre personaggi così. Allora, chi c'è davanti? No, questa prende tutti, cioè è enorme. Lo so, sto pensando se castare di nuovo Terrify, ok? Okay. Allora, chi c'è? Decidi soltanto... Il PR sarebbe... E 12. Quanto? 12, mi sa. Allora, aspetta. Tutti. 10 più 5 per S. Che prova sarebbe? La prova sarebbe... resistere, quindi giallo. Giallo. Perché io tecnicamente ho due reroll. Ma più che altro gli altri, cioè... Sì, però è... cioè... Però è una reazione sola, quindi uno solo. Sì, uno solo, ma soprattutto è due volte un di 10 pulito e devi fare tipo 15. Quindi devi fare 10 e poi non fare un numero basso. Sì, ok, no, allora niente, faccio zuzu. Cioè, può succedere, però... Vai, sa come vuoi. Facciamo prima il turno di Nibel. Sì, fa andare Nibel. Vai, Nibel. Vado io? Ok. Allora, tiro su il piccione, vado di attacco sulla capocchia alla... Alla capa. Alla capa. Di 10. Più 1. 10. Entra. Entra e mi... Oddio, ha più 2... Hai proprio 10? 9 più 1 perché... Sì, allora lo evita tondo perché c'ha il bonus di Shadow. Quindi le scende di nuovo. Questa volta proprio il piccone le passa un filo dal naso. E poi di nuovo... il calcio. Giù, tipo, sì. Un calcio, una ginocchiata. Roll di 10 sì. Più 4. Che cazzo ho fatto? Perché 32 ho fatto? Hai fatto. Niente, madonna. Vabbè, ok, direi che è entrato. Potevi evitare lo slip con questo roll. Ma sì, davvero. E entrano i danni, cioè non c'è il critico, semplicemente va molto a segno. Sì. A proposito, non vi ho segnato un cazzo di esperienza, scusate, ora vado. Io mi sono già segnata per me. Ok, bravissima. Don't touch my things. Sì, sì, segno quelli di... Me la segni tu per me nel caso se ho robe? Sì. Non ho danni aggiuntivi con gli attacchi senza armi, giusto? No, non ho danni aggiuntivi. Cioè danni aggiuntivi col piccone. Cioè col piccone faccio più danni e con le mani sono più precise. Allora, perché... con le mani hai di 6 danno base invece che un di 4. Più 4 a colpire... Sì. E... Sì. E poi è maestria 2 che da manuale aspetta, quindi è di 6 più 2 sì, quello sicuramente per colpire, però se non sbaglio c'è proprio però perché qua sulla scheda c'è soltanto la maestria del piccone. Sì, non c'è neanche senza armi, sono pazzo? No, c'è anche senza armi. E questo qua, colpo. Hai più 1 precisione per ogni punto. Quindi hai più 2 a colpire. Quindi hai un totale di più 6 a colpire con i pugni. Che più 6? Perché hai più 4 da fisico per la tua abilità. E più 2 perché hai la maestria senza armi al livello 2. Però il rosso lo aggiungo alla precisione, non ai danni. Sì. Ai danni non aggiungi nulla. I danni è 1 di 6. Ok, basta che tiri un di 6 per i danni. Ok, allora per chiarire bene per la prossima volta. Per precisione io ho di 6 perché ho... Per quale motivo? Perché ho il rosso... No, allora, per colpire hai un di 10 perché è un di 10, più 4 dalla tua abilità che ti dice usi il rosso come bonus, e poi più 2 dalla maestria senza armi, che ce l'hai in riga 39. Questo è... Se vai a vedere sul manuale, l'attacco senza armi base è colpo. E colpo ti dice, hai più 1 precisione per punto competenza, e se il bersaglio ha resistenza a impatto, subisci un danno da impatto. Questa è proprio... Quindi la maestria senza armi aumenta la precisione, la maestria con la mazza aumenta i danni. Sì, dipende dall'arma, però essendo che la senza armi è standard, cioè tutti hanno le mani, è uguale per tutti. Sì, ok. Era per... Tutti hanno le mani, dico al tizio con una mano sola, vabbè. Esatto, quindi è tipo... di 6 senza niente. Sì. 5. 5, no. Prende 5 danni. Ed è a metà vita. Occhiate con le costole. E vedete che le tiri un bel pugno, assestato, fa un bel crack. E la tipa inizia a scusare. Finisco il turno e la mia precisione cala a 8. Perché mi finisce l'effetto di sprint. Ah, ok, ci sta. Perché avevo usato il turno precedente, visto che dura 2 turni. Sì, l'evasione, sì. L'evasione, scusa. Sì, ci sta. Tocca a Mif. Allora, ho una domanda. Certo. Se io ricastassi Terrify, sì. Diminuisce il loro... Credo di sì, dammi un attimo che guardo dal manuale. Credo che paura sia una di quelle robe che... ogni volta che... di uno, ogni volta che l'ha subito in questo incontro. Vaffanculo, Castanero, va. Sì? Vabbè. We try. Allora, costo 4. Tanto di mana costo ce 4. N'hai. No, tanto sto usando i grimori al momento. Anche meglio, si fottano i grimori. Esatto. Fai la versione in cui addormenti tutti. Sì. Bene. Wow. Ragazzi, sai, i prossimi 5 turni giocherà solo Mif. Bene così. Perché questo è un 6 più 6, siamo a 12, più 3, 15 di difficoltà. Andiamo in ordine allora, sennò poi diventa un casino. Sì, faccio prima tutti i nemici. Okay. Il tizio grosso resiste. No, vabbè! Tizio grosso resiste, gli altri tutti secchi, cioè tutti addormentati di brutto. Madonna. Perché l'ultimo ha fatto 3 o 13 o 14, comunque meno di quello che serviva. Aspettate che devo trovare un'iconcina per lo sleep. Ci dovesse l'iconcina per lo sleep? Anch'io me la ricordavo, ma non la vedo. C'era ZZ da qualche parte. Infatti, non me la ricordavo anch'io. L'ha tolta! Non ce la meritiamo. Vabbè, non me la ricordavo. No, c'era, sono sicuro l'ho usato. Anch'io, ti giuro che non c'è. Vabbè, mettiamo questa faccia qua addormentata. Magari l'hai cancellata per sbaglio, perché si possono editare. Non l'ho mai toccate. Sapevo che si potessero editare. E andiamo da Nibel per primo. Di 10 più 0. Niente. Oh mio Dio. 4. E Nibel va fra le braccia di Morfeo. Il coniglio. Indovina quanto c'ha il coniglio? Ma ci avrà meno 1, 0. Che cazzo c'ha il coniglio? C'ha proprio 0. No, ecco. Vabbè, lo tiro per i meme? Sì. Ma no, se fai 10 e poi 5 rimane sveglio. No! È arrivato il D20, Eddie. No. Quasi. Sarebbe stato bello avesse fatto 10. Moltissimo. Adone? Te c'hai un po' di più, però comunque non c'hai un numero alto, c'hai tipo più 2. Vai. No. Sì, c'hai più 2, più 2. Ma ho già rollato un di 10, ha fatto 2. Ah, più 2, 4, certo. Lieto? Lieto? Lieto che c'ha più? Non abbastanza. C'hai un Wuping più 1. Ma 7 col mio Wuping più 1. E... for flavor si addormentano anche il vescovo e Ora? No, aspetta, ma si addormenta Ora, muore il vescovo. E a tutto? No, Fra, non farmi questo! Il tizio grosso, vedendo tutti che si addormentano e che rimanete in piedi solo tu e lui è il doppio di te... Not a good thing. Si schiocca le dita, guarda nella tua direzione... e aveva il cappuccio, si tira giù il cappuccio mostrando una importante pelata. Aspetta, era per resistere la prova? Sì. Provo la reazione, spendo un malapena. Vai! Vai, vai, bro! Vieni, ti scocciura! Mi sa che non basta e comunque... sì. Vabbè. Aspetta, hai usato obolo alla vanità? Obolo alla vanità. Bene, perché quello ti dà teurgia. Che non ti servirà mai, però te la segno. Non importa, va bene lo stesso. Sì. Penso che tipo, io su sulla scheda c'ho XP magia senza armi, cioè le mie mani sono la mia magia. Ho i pugni nelle mani. Ma cazzo, è vero? È un refuso, lo vado a correggere. No, puoi tenerla, cioè, sono un mago pure io. Sì. E ti è salita teurgia, Mif? Sì. E come dicevo, siete in piedi voi due, vi state guardando. E Mif tipo alza le mani e fa: possiamo parlarne? Non se credo tutti proprio. Sono addormentati. Se tutti sono addormentati, li uccido tipo seduta stante. Quindi possiamo semplicemente decidere di andarsene. Il tizio si avvicina lentamente. Cioè, cammina nella tua direzione, menacingly. Indietro. E aspetta, nello stesso turno io posso selezionare qualcuno a cui far tanto male. Perché non c'è scritto nel turno dopo. Seleziona bersaglio. Certo, vuoi che ti dico qual è il segreto di questa cosa? Vai. È o la prima o l'ultima riga di Oneiromancy che dice: puoi usare questo. Allora, no, puoi, però è un altro turno. Cioè, al turno... Niente, se lo fai, tocca a lui, poi. Tra l'altro, quanto cioè, hai speso? Io... Sì, ok, non l'hai già segnato 4. Tu il mana? Sì, ho già segnato. Quanto stai? Allora, ho fatto... Prima ero a 3 di Grimorio, ne ho 2, quindi uno è speso tutto, adesso ho 4. Perché è andato. Capito. Dell'altro. Sì, sì, sì. Ho ancora tutto il mana pieno. Sì, sì, sì. Ok, allora ce n'è a sfare di stronzate magiche. Sì, facendo veramente. Utili non penso. E... Cioè, aspetta, mi ha detto che c'è un bersaglio. Ok. Cioè, allora, sì, nel senso, cioè, io non... Io mi chiedo se posso svegliare qualcuno. E svegliare, dici, usando Neuromancy? Sì, uno dei miei alleati. Cioè, dici, gli fai danno e lo svegli? No. O lo svegli con... Lo sveglio. Posso controllare i sogni di questa persona, no? Sì, gli fai fare un incubo in cui si sta svegliando. No, oppure semplicemente gli dico, svegliati. That's fair. Ci sto, ma mi rolli un di 10 su persuadere. E dimmi chi è che vuoi svegliare. Sveglio Nibel. Allora, è un di 10, 4 più, dammi un secondo, persuadere più 4. Vai. È un 8. Vai. Ho già rollato. Ah, ok, scusami. Cioè, avevi già fatto il calcolo, I beg your pardon. Mi piacerebbe mettere la musica, ma non voglio farla troppo lunga sta scena. Il sogno di Nibel che stai vedendo è Nibel a casa sua. Fuori da casa sua c'è un prato fiorito pieno di piante da coltivazione, cioè roba da mangiare, però in fiore, quindi nel momento più bello del campo. E Nibel è in casa con i suoi familiari e sta chiacchierando amabilmente con sua moglie e sua figlia. O meglio, tu deduci che siano sua moglie e sua figlia dall'atteggiamento, i suoi feeling che riesce a percepire, eccetera. Ok. Nibel, vedi il sogno che si mette in pausa. Cioè si ferma, come se si frizzasse, e ad un certo punto la faccia di Mif ti si palesa davanti e fa... Svegliati. Tutto questo è un sogno. Ho bisogno di te. Di là. Subito. Adesso! Nibel comincia un po' a panicare, quello che per lui era, dava per scontato fosse la realtà, si rende conto che è il passato, e ascolta le parole di Mif e apre gli occhi di colpo. Mi rolli un di 10? Sì, mi rolli un di 10? Yes. Perché scrivere quando c'ho. Questa fantastica funzione. Uno, no, però. Apri gli occhi di colpo e ti ritrovi dentro una grotta, no, vestito da minatore, e a fianco a te c'è Mif. No, Rispondo: il lavoro devo portarlo avanti, non posso fermarmi ora. Nel no, mondo reale, oh mio Dio, l'uomo grande e grosso, grande e grosso, ti si è avvicinato abbastanza da esserti sopra praticamente. Ti poggia una delle sue enormi mani, sono proprio fuori misura, cioè le mani di Nibel sono proporzionate al suo corpo, questo tizio no, questo tizio è deforme. Poggia la sua... particolare? Eh? Tanto Mif sa già che verrà pestata e gli dice: hai mai pensato di farti curare la cosa delle mani? Sai, c'è una macchina qua in fondo. Anche il fatto che è pelato potrebbe essere un argomento di discussione. Però hai scelto le mani. E ti tiro un pugno. Oh, ottimo, we take it. 7, sai che Mif mi sa che lo evita? A 7. 7. Riesci a pararti col grimorio. Che bello. E casolo. Finisci atterrata face up. Ok. E tocca a te. Tocca a me? Ok, allora. Non è che sto skippando gli altri, è che mentre state dormendo... Il test per svegliarvi lo fate dopo un po', non lo fate al turno dopo. Allora, cioè, ricastarlo mi sembra tu, ma... No, anche perché non posso ricastarlo. Per cavarmi da lui, esattamente. Puoi muoverti, cioè te ne vai e basta. Ah, non mi fa... Cioè, non esistono gli attacchi d'opportunità. No. Ok, cioè Mif si rialza fatica e inizia a fare un po' di spazio e domanda, me la conti come azione bonus quella di Nibel o come azione? Perché chiaramente o faccio danno con un ero, ma... Azione bonus, però okay. Se vuoi toglierti, cioè tirarti su è un'azione extra, altrimenti puoi strisciare. Ai. Strisciare fucking ti crawl. Muovi di metà della velocità di movimento. Ok, allora cerco di nuovo di svegliare Nib. Stavolta rolla solo Nib. Vai. La difficoltà è 13. Ma che roll sarebbe? E dialettica sempre, cioè è resistere. Sì. Resistere che non ho niente. Hai più 0, sì. Posso ridurre i danni, Kickmaster, non posso fare prowess, agilità o fisico, non credo di poter avere le facoltà mentali per poter utilizzare un malapenny mentre sto dormendo. Giusto? Sì. Malapenny. Oh no! Oh mio Dio! Vabbè, per questo turno è scesa la difficoltà. Esatto, e faccio danno alla capa? E non puoi usare due volte la spell in un turno, puoi? Cioè, sei witch? No, non ho... Ah, ok, giusto, me la conti come... Cioè, due cast separati, quindi... Ah, ok, non lo so. Niente. Ti tira un azione calcio tormentata, adesso. Però, sì. È un usare un oggetto, quindi sì. Ok, Manapenny? Manapenny. Faccio 27. A chi fai danno? Al tizio davanti, cioè iniziamo un attimino a graffiarlo. Segnati te l'esperienza di stregoneria per sta cosa. Sì. Tuono. So. Lui resiste, cioè prova a resistere. Non resiste. Dammi un attimo. Prima ha colpito senza armi. Mi sarà giù un'esperienza. Come funziona? Cos'è che hai fatto, scusa? Prima avevo colpito senza armi, prendo uno di esso. Sì, se non te l'ho già segnato, ma mi sembra di averlo segnato. No, quello no, l'ho segnato... Sì, sì, sì. La prendi anche quando missi. Ah, no, okay, aspetta. No, la prendi anche quando missi, ma una volta per azione puoi prendere esperienza. Quindi se nella stessa azione attacchi con un'arma e senza armi prendi uno o alla prima o alla seconda, non a entrambe. Cioè scegli tu quale però. Per i 2 turni ho. Primo turno ho missato con entrambi, secondo turno ho missato con il pippone Ok. e colpito con le Puoi scegliere se fare 2 e 0, 1 e 1 o 0 e 2, come vuoi. Come vuoi. lanterne. Ma che era, scusa? Puoi mettere, visto che hai attaccato tutte le volte, sia con l'arma che con senza armi, puoi prendere per ciascun turno un punto o a mazza o a senza armi. Quindi o 2 e 0 o 1 e Quindi ho 1. 2 punti Sì, di esatto. distinzione. Ok, quanto serve per salire di... Scusate se vi occupo tempo, Al poi 10 stavolta ho per il capito. primo. 20 per il secondo, 30 per il terzo. Mi sembra che sia così facile. Ok, Dovrebbe essere. allora li tengo tutti e 2 sul piccone però. Ok, perfetto. L'avevo segnato io in automatico perché era il primo che hai fatto. E dicevo, no, prende i danni da passione tormentata che sono 3. 3. Prende 3 danni. Sono i primi danni che prende sto tizio. Avrà un fracco di vita, sto stronzo. No, non solo. Non prende nessun danno. In che senso? Nel senso che quando gli sta per arrivare il fulmine addosso, tira un urlo e non subisce danno. What the fuck? Gamagori, Oh mio type Dio. shit. Esatto. Mi fa sto spunto sbarrare gli occhi della serie. No, Fra, non puoi farmi questo. Tira un calcio. 9, ti prende. La notizia. Posso fare la reazione o lo scudo? Sì, vai. Yeah! Devi Aspetta, fare dov'è? 9. Fare 9 e resistere. Ok, quindi resistere. Che cazzo ho a resistere? P2. Ecco, quindi 10, 7, Tondo, 9. tondo. Ti tira un calcio, tu lo pari con lo scudo e lui ti tira su, cioè prende lo scudo e ti tira su. Facciamo un roll, cioè non ha senso fare roll contrapposto, quindi semplicemente rolli tu. La Ok. difficoltà di sta roba è 5 più 4, 9 meno 1. Di cosa? Di Devi. resistere sempre? No, è un tiro di fisico, ma hai bonus più 1, devi fare 13. Non fa Non 13. fai 13. Prende lo scudo, ti tira su per lo scudo, te lo strappa di mano. Bitch. No, glielo dico, stronzo. Tocca a te. Troll. Facciamo l'ultimo turno noi, poi faccio fare un tiro a tutti per vedere se si svegliano. Oltre a Nibel. Mi stavo ricordando una cosa che ho fast learner, quindi tecnicamente prenderei un expo in più. Una Una volta volta. per Lo combat, come cazzo funziona? Sì. metto a... Adesso vado Ah no, ma subito sul questa mi mazzo. sa che parla di esperienza, cioè quella del level up, non quella Ah, delle ok. skill. Sì. Ok. Sara? Cioè Mif? A sto punto faccio danno alla capa. Sono 4 di 6, 2 da sacro, era? 2 da sacro, 2 da oscurità, mi sembra. Da 2 da sacro, 2 da oscurità, esatto. Tiro 4 di 6. Posso farci un cazzo, vero? Non mi ricordo. No. Rolla 4 di 6. Sconfitta è Gli ho rollati. sconfitta, devo capire se muore. Dammi un attimo. Meno 7 mi va di vita. No, rimane. Ok, è a meno 7 di vita, quindi è sconfitta. Non so quale sia l'effetto di un aeromancy nel mondo reale, cioè muore nel sonno, come funziona sta cosa? Sarebbe Sì. morire nel sonno. Se lo fai tipo Sandman, sì. Esatto. È morto nel sonno. Però onestamente posso dire, le sto facendo fare un incubo talmente tanto terribile che penso che la si senta urlare. Sì, era la mia versione di How do you wanna do that? E tutti provate a svegliarvi. Io rollo i quattro che mi rimangono, i tre che mi rimangono vivi. E falliscono tutti. Nibel, hai da fare un 12 per svegliarti. Ho provato anche io. Sì, quando poi si ubbirà, non ci sei. Eddie, esatto. Devi fare il tuo e quello del coniglio. Subito. Allora, il primo sarà quello del coniglio. Ok, quello di Adone. Adone, svegliati. Adone, quanto hai fatto? No, secondo me basta. Basta. Adone si sveglia. Sono contento che sia finita la musica. E agli occhi di Mif, che un minimo lo conosce, ha qualcosa che non va. Oh no. E lo facciamo tra un attimo, perché vorrei fare il turno dei due tizi, cioè quello che sta per gonfiare di botte Mif, che ti tira due pugni. Ok. Il primo è un 14, il secondo è un 8, entrano entrambi. No, sì. E sono 2 di 4. Io non capisco quanta vita ho al momento, però. Molto cioè, semplice, hai 2 di vita. Note. Sì, l'11 era la vita temporanea che è scesa e sul token ti stavo segnando quella che ti rimane. Quindi ora hai 2 di vita massima. Cioè, hai 9 di vita massima e 2 di vita attuale. Ok. Adesso me la segno anche io. E quello che vedi è che questo tizio enorme ha lanciato via lo scudo e ti ha tirato 2 pugni in faccia. No, penso che Mif sia tipo un attimino rannicchiata a sputare sangue. Tocca a Mif. Atone, come hai messo? Lo facciamo tra un secondo. Tu, quello che vedi di Adone è come se fosse sonnambulo. Oh no. Oh no. Sleepwalking! Oh no. Oh mio Dio. Oh ragazzi, meno gente, sì, meno gente ha... seleziono 8. Questo qui. Gli fai danno? Aspetta, la gialla che cos'era? La viola che cos'era? Il verde era l'arciere. La gialla e la viola sono le due tipe che sono entrate in posa, abbracciate, sì. Ok, va bene, facciamo che una se ne va. Questa, la viola. Ok, tira due, cioè tira i danni. Sono 4 di 6. Sconfitta, ma non morta. Cioè, come quell'altra tipa. Cioè, l'incubo è talmente reale che urla e perde i sensi. Se ha senso sta cosa che ho detto. E perde niente, cioè, Mif in questo momento, cioè, ha letteralmente la morte in faccia e non so, in una parte di sé spera in qualche cazzo di miracolo. Fuochino. Oh no. Ciao Eddie. Oh no. Ti perdi no. Sono Filippo Argenti. Sai cosa sto per mettere? Cosa stai per mettere? Lo sai benissimo. Oh no, la musica di Deltarune. Certo che la musica di Deltarune. Non so come funziona il bot. Aspetta che accendo la cam. Aspetta. Non è partita. Non è partita la cam, hello? Prenditi il tuo tempo. Mi si è buggata la cam, credo. E a me il bot. Perfetto, allora aspetta, esco un attimo, entro da Ask and Posti, ok? Vai. Pensavo avessi il potere per rientrare qua. Sì, infatti l'ho realizzato dopo, ok, però vabbè. Senti? È il solito cazzo di sogno che fai tutte le volte che dormi e che tutte le volte che ti svegli ti dimentichi. Sei in un posto pieno di nebbia e stai camminando. Ti sembra che rispetto al solito sia più fast paced. Cioè, le cose succedono okay. molto in fretta, quindi you're storming through il campo, quello che è, vedi le statue, non ti ci fermi neanche un secondo, vai diretto al punto. Hai davanti a te questa entità gigantesca rispetto al tuo corpo, fatta di parti meccaniche, con tu vedi delle linee metalliche, e sei solo. Completamente solo. Io sto vedendo le cose che sta facendo Sara. Io effettivamente so cosa è successo nel sogno, quindi provo. So cosa è successo, cioè nel senso so che mi sono addormentato per via di Nif. Sì, hai un vago ricordo del fatto che stavi combattendo e poi ti sei addormentato. Okay. Cioè i dettagli non ti ricordi, non ti ricordi quanta gente c'era, non no, ti ricordi certo. con chi. Sì, sì, sì. Sapendo comunque che c'è qualcosa che sta succedendo attorno a sé, Adone prova, pensa, devo svegliarmi il più velocemente possibile e quindi tocca con entrambe le mani la statua. L'entità fa una cosa diversa dall'ultima volta. Tanto tu non te la ricordi l'ultima volta, l'hai letto nei tuoi appunti, ma è non è la stessa cosa. Vabbè, sì, sì. Ti solleva come si solleva un bambino, okay. e ti pone okay. davanti al foro che hai in testa, e da quel foro inizia a uscire una voce che per me e per te potrei definire come se uscisse da un megafono non di alta qualità. Per Adone è una roba abbastanza sovrannaturale, uncanny, esatto. E la voce è qualcosa, dice qualcosa sulle linee di... Il tempo è giunto. L'inaugurazione del Cristo meccanico è alle porte. Ok. Mi sta infilando dentro. No, ti sta tenendo sollevato. Ok. Allora provo a infilarmici io. Stai facendo una roba del genere, tipo, eh? Perché ti sta tenendo sì. sollevato lontano. E la voce continua a parlare ignorando le tue azioni. Però vedi che la luce, come aveva fatto l'altra volta, inizia a espandersi. Il contenitore è pronto. A breve... La rinascita del dio meccanico. Adone continua imperterrito per infilarsi nel buco. Ok. La luce si è accesa praticamente ovunque. È come se avessi dei riflettori puntati su di te. Una roba accecante, strana. Cominci a non vedere più chiaramente la sua figura perché la luce è talmente forte che fai fatica. Come... guardare direttamente il sole e vedere l'outline. La voce diventa più distorta, le parole che dice non hanno più senso, cioè sta delirando dal tuo punto di vista. E poi si fa un pochino più chiara, sempre meccanica, sempre artificiale, però un pochino più tranquilla, e dice: sarai tu il salvatore? Adone si vuole infilarsi, e questa ultima cosa che dice è: sì, sarò io il salvatore. A qualunque costo? A qualunque costo. È il momento di gettare un paio di vite sull'altare della pace. Prego! Una serie di luci, di nuovo, sembrano riflettori, illuminano un percorso al lato di Adone. La creatura ti poggia per terra e rimane alle tue spalle con le braccia aperte, facendo una luce sfolgorante che però ha le tue spalle, quindi in realtà vedi la tua ombra allungarsi tantissimo in questo percorso. Ok. E la creatura dietro di te ti esorta a camminare e ti segue. I suoi passi sono fortissimi, rimbombano nell'aria. E aggiunge: non avrei bisogno di un maestro, dovrei fare solo quello che serve. Giovane, impugna la tua arma. Ok, e impugno un'arma? Devo compare nella tua mano un oggetto che sembra una folgore, ok, un fulmine, stilizzato, meccanico, di metallo, bronzeo. Ok. Prego. Ok. Elimina i tuoi nemici. Io guardo davanti a me, guardo questa folgore nella mano, poi guardo davanti a me e la scaglio con tutta la forza che ho dritto. Grazie. Davanti a me. Salve. Oh mio Dio. Non so niente, insomma. Oddio, spero... aspetta, la mia carta, sì, aspetta. Spero vi siate divertiti in questi minuti in cui non c'eravamo. E... spero che il bot funzioni, perché avendolo cambiato di stanza in genere si bugga. Sentiamo ancora la musica di Deltarune. Ora non più, vero? Esatto. Ora non più. Perfetto. Quello che vedete è che Adone, che è l'unico che si è svegliato, quindi Mif lo vede. Facciamo le cose come Dio comanda. Vedi Adone posseduto che alza il braccio, una asta seghettata gli compare in mano e lui la lancia nel mucchio, cioè dove ci sono più nemici. La lancia passa sopra di te perché sei a terra sanguinante, prende il tizio sopra di te, trafigge il coniglio, trafigge la tipa già, cioè passa sopra la tipa a terra e arriva nel petto della tipa gialla come icona. Mi devi rollare 1, 2, 3 di 10. Ok. Oh my god. Mi rolli 2 di 8. E io rollo un di 6, scusami un attimo. Ok. Wow. Il primo tizio viene colpito di striscio ed è come se un fulmine lo prendesse di striscio. Appunto, quindi gli è andata bene. Ora mi rolli 2 di 8 per il coniglio. 13, gli si spacca, gli si sbriciola. No, gli si sbriciola la protezione di legno. Però rimane vivo e si sveglia. Infine mi rolli un di 8 per l'ultima persona dietro. 7. Le fai molto male, il fulmine la colpisce in pieno e si sveglia, però non è morta. Hai un'altra azione, Adone. Tu vedi quello che ti ho descritto prima, però, davanti a te. Perfetto. Allora, Adone utilizza questa volta l'altra mano, dove gli si forma sempre questa lancia seghettata, immagino. Uh-huh. E chi c'è ancora di vivo? Davanti a te non vedi delle persone, vedi delle figure che ti sembrano delle... Ok, allora aspetta. Sì, hai ragione. Cerco di colpire di nuovo la figura che ho avanti, dritta a me, e di lanciarla il più lontano possibile. 3 di 10. Scusa. 2 di 8 per il primo. Mi rolli 2 di 8 per il coniglio, che... No, dai, non è detto che ci saluti. 10. È vivo per un pelo. Minchia. E mi rolli 2 di 8 anche per l'ultimo. l'hai sfiorata l'ultima. Giocana. Fine del tuo turno. Sei comunque in quello stato, lo chiamiamo sì, trans. Sì. Ho capito. Bene. Uh-huh. E il tipo grande e grosso, che è sopra Miff ed è stato colpito da due fulmini, calpesta Miff. Mi rolli un di 10. Oh, ok. Adesso arrivo. Ti fa un danno. Wow. Rimani a uno di vita. Calpesta Miff e salta in avanti per tirare un pugno al volo a Adone. Che cazzo vuole? 8, quanto hai di evasione? 7, ti prende, ti fa un di 4 danni. Vabbè. Ti fa 4 danni, vai a 3 di vita e ti svegli. No! Ok. E il ricordo di quello che è successo finora inizia a svanire. Beh. E non hai memoria di aver fatto quello che hai fatto. Perfetto. Compenso il dolore alla guancia dove ti è arrivato un pugno. Eh beh, certo. T'altro che svanito. La tipa che si è svegliata è un po' rintontita, ma capisce velocemente la situazione e spara al coniglio. No, l'opnu. Entra. E il coniglio esplode. Oh no, un coniglio in meno. Con l'altra azione ricarica, con l'ultima azione cerca di svegliare la sua amica. E la sua amica. Quale? No, quella. Questa qua. E la sua amica non si sveglia. Ora ho il tizio in alto che rolla per resistere. La difficoltà è 12 a questo punto. 7, rimane addormentato. Ho questa tipa qua che è sconfitta, quindi la elimino. Ho lieto, mi rolli, la difficoltà è 12. Devi fare 9, credo. Lo fai 9? Sì. Vai, vai. Dubito. Vai. No, ma quel cazzo proprio. Dovrei fare 8. La capa è KO, tocca ad Adone. Ok. La tua guancia è grossa. Adone ci... La tua guancia è gonfia, è grossa così. Sì, immagino. Adone si caga nei pantaloni, cioè si risveglia proprio in maniera violenta e appunto inizia a dimenticare quello che è stato il suo sogno. Vedendo... Effettivamente cosa vede attorno a lui esattamente? Okay, cioè, si trova il tipo davanti. Allora, davanti a te c'è un tipo molto grosso che ti ha appena tirato un pugno. Alla tua destra c'è Lieto addormentato, cioè sta ronfando. Dietro il tizio c'è Miff mezza morta, a terra sanguinante. Poco più avanti vedi Nibel addormentato e le altre persone vestite di nero addormentate. Nell'angolo della chiesa ora è in dormiveglia, cioè si sta risvegliando, e il vescovo sta sanguinando. Dio cane. Fammi un attimo vedere di quant'è che mi potevo muovere con Adone, di 3? O 3 o 4? 3! No, 4, 4. C'hai un livello da... C'hai un livello da Wanderer, okay. Quindi 3. Quindi 4. Ah, sì. Ok. Facciamo così, Adone si sposta qua. Ok. E dopodiché utilizza se utilizzo passione tormentata con la fatica vado a meno vita. Non puoi farlo in questo setting. Ah, ok. Devi usare proprio i mana penny. Ah, ok. Ah, perché prima mi avevi detto che potevo? No, te l'ho fatto usare un mana penny. Ho anche tolto un mana penny. Avevo capito. Sì, infatti avevo capito un'altra cosa, ho detto ma se vuoi puoi usare la fatica. Lì, ma come posso usare la fatica? Ok, allora ho capito bene. No, forse era per overpower. Allora sì, utilizzo. Può essere, sì, effettivamente. Non lo so, vabbè. Fatto sta che utilizzo un mana penny per castare passione tormentata. Ok, dimmi l'elemento al bersaglio. Gli do... Facciamo che metto fuoco. Ok, sempre sul tizio grosso? Sul tizio grosso, sì. Mi sembra che non la eviti per 1. Vado a double checkare. 3 più 6, 9 più 3, 12. Non la evita per 1. Prende 3 danni. Perfetto. Benissimo. Io ho azioni extra che però non posso castare. Puoi castare passione tormentata e usare un oggetto. Ma non ho oggetti da usare, infatti stavo correndo no, quello che hai appena fatto quello che hai appena fatto adesso è un oggetto. Castare passione tormentata è usare un oggetto, perché usi un mana penny. Ah, ok. Però non ho altre robe da, cioè non ho altra roba da poter fare, mi sa. Non lo so. No. Ok, puoi passare, basta, sì. Sì, passo. Puoi far la roba di ripristinare la tua evasione, se ci tieni. Sì, dai, facciamola. Ok, ok, c'hai cioè l'evasione al massimo. Ok. Tocca Nibel, devi risvegliarti, la difficoltà mi sembra sia 10 ora. You can do this! Due cose. Uno, il 6 che c'è nel blu nell'icona, cos'è che era? Il 6? Che c'è quando clicco sull'icona, che cos'è? Ottima domanda, non lo so. Se non serve a niente ti metto l'evasione lì. Cioè sì. Va benissimo. Okay. Seconda cosa, ti ricordi quando ho detto che mi ricordavo che ho due abilità per resistere e l'altra non mi ricordavo dov'era? Prima riga di Iron Body, i tuoi tiri per resistere sono propizi. Ok, quindi tiri due e prendi il più alto. Ok, e quindi avrei dovuto farlo finora, però... Sì. Mi ero sbagliato. 2 di 10, sì. Vabbè, un po' meno di 1 su 5, casca almeno un 10. Non ci siamo. Però posso dire, stai facendo un bellissimo sogno in cui vai in miniera. Che bello lavorare. Mif. Mancava di 9-5. Senti i tuoi denti che si stanno staccando dalla tua mascella. No, aia. Infatti, buonissimo. Mi sono scritta la mano davanti alla bocca. Non registra neanche quello che è successo con Adore, cioè... Io, Master, ho una domanda da farti. So che non ha funzionato la prima volta, però io c'ho un'altra moneta di Faera. Can I fucking try that? Descrivimi cosa vuoi provare, ti dico cosa succede. Ok, Miss penso che... Vado a caccia del suo borsello, fatica, e tiri fuori una moneta. Mm-hmm. Non la guarda, ok? Ci prova e basta. E in questo momento, pensa al professore che okay. L'ha accompagnata in Gulacca, che come ultimo sforzo per fare in modo che... Ma stai usando un ricordo o è una descrizione molto dettagliata? È un modo. Okay. E niente, cioè, prova a rifare le stesse cose che ha fatto il professore, dire in Catapon Maiklon e direzionarlo verso lo stronzo che è sveglio. E niente, ci provo. Non succede un cazzo, cioè la monetina rimane nella tua mano, però hai attirato l'attenzione dello stronzo che si gira verso di te e dice: gli abissi di che? Oh no, non lo sai, Maiklon, sputa un dente, no? Ok. Non pensavo di averti colpito così forte da farti rincoglionire del tutto. Quello ve lo dico in realtà. Mi scasta Terrify! Bel tentativo. Aveva già resistito, quindi... più uno. Il tizio rosso no, il tizio grosso no. E aveva resistito al primo, cioè una volta sola. Sì, giusto, hai ragione, sorry. 9, la difficoltà è 11. 11. Feared. Ottimo, perfetto. Però al prossimo turno resiste con difficoltà 10, quindi puoi evitare, cioè non è infattibile. Ti sei segnata il mana? Cioè quello che stai usando per... 2 adesso. Vai vai, segnati tutto, hai finito il tuo turno perché hai fatto 400 azioni. Sì. Tocca subito al tizio, devo fare 7. Cioè in prima, senza che... 5, rimane feared. E colto dalla paura, fa un passo indietro. Tocca alla tipa sveglia, che spara alle spalle a Mif. Q4. Mi prendo. Bang! Ho 7. Hai 7? Ho 7. Come sei vestita? Ho una camicia e dei pantaloni e il foulard attorno al braccio. Ok, la tua evasione scende a 6, quindi, e la tua camicia viene completamente bruciata sulla schiena dal proiettile che ti sfiora la schiena. Se hai i peli te li ha fatti, però non ti ferisce. Siretta gratis? Eri a pancia in giù che stavi facendo sta roba qua, quindi ti passa sopra, capito? Sì, benissimo. E prima azione, azione extra per ricaricare. E che cazzo? Ma aspetta, domanda. Dimmi. Anche lei doveva fare il test di Purify. Ah, giusto. Sì, in effetti è in range. Dimmi. Devi farlo anche come tu. Cosa, ma... No, proteggo Adone. Ok, sì. Ma il coniglio è ancora vivo? No. 11 lo evita. No, che palle. Quindi esattamente quello che ho detto, scusami. Sì, sì, vai, vai. No, mi preoccupate. Ultima azione, casta Shadow su se stessa. Quindi per 2 turni c'ha più 2 evasioni. E... tocca all'ultimo tizio che sta dormendo. Anche lui ha difficoltà 10. E rimane addormentato. Lieto. Hai difficoltà 9. Ma avevi detto 8 prima. Sì, no, no, no. Devi fare 8, ma hai difficoltà 9, perché hai più... giusto? Tranquillo, il mio è un 6. Quanto hai di bonus? Scusa, cioè non è per insistere, però... Ho uno, sì, hai più 1. Sì, sì, sì, te ne manca 1 per funzionare. Unlucky. Questo veramente sfortunello. Io ti sto facendo una dormita di quelle. Quella, la migliore della sua vita. Ricaricati. Adone. Non ho mai dormito così bene. Mi dica. Hai un numero di punti vita che puoi contare sulle dita di una mano, te sommate a quelli di Mif. Perfetto. Come stavo per dirti? Veramente. Dopo ti dico. Direi io continuo a usare i miei soldi perché non posso castare più spell, oggettivamente. Puoi castarle con la fatica, se vuoi. Mi hai detto che non potevo. Non puoi castare il mana penny con la fatica. Non puoi castare passione tormentata con la fatica. No, ma non è quello che... Ok, ok. Non lo so. Non so se voglio usare la fatica. Come vuoi. Vabbè, dai, facciamo sì, dai, castiamo passione tormentata con la fatica. No, è l'unica cosa che ti ho detto che non puoi fare. Ok? Perfetto. Bene. Allora casto... no... Posso castare Yu-Yu su Mif? Sì. Con una fatica? Sì. Ok. Cosa allora fa? Faccio quello. Ti dà 15 di vita. Oh mio Dio! E ti riduce di 1 la velocità di movimento. Oh! Mi dovresti recuperare un PV a fine del turno. Quindi ho 15 di vita adesso? No, hai... No, 9. Allora, calmati. Hai 1 di vita e 15 di bonus... Ok. Hai 15 punti vita temporanei e 1 di vita. Ok, quindi mi protegge. Ok, ho capito. Perfetto. Grazie. Yu-Yu devi essere a contatto? Entro 4 celle va bene, sì, è in range. Guardavo solo il range. Costa 2. Hai 5. No, scusami. Hai 4 di fatica rimasta. Ok, perfetto. E posso... Dove vuoi? No, niente, direi che non posso fare nient'altro. Guarda, non puoi castare cosa. Dimmi. Lieto è sveglio adesso? No. Ok. Però se lo volessi svegliare sarebbe un'azione, vero? Dipende come lo vuoi svegliare. Sì, tirargli uno schiaffo forse è un'azione. Allora, tirargli uno schiaffo gli devi stare vicino. Sei a 4 metri di distanza, quindi a meno che tu non sia Mr. Fantastico. Ok, ok. Sì. Mi posso spostare. Te lo faccio fare. Ok. Allora mi sposto vicino, gli tiro uno schiaffo urlando, svegliati Lieto! Lieto rolla per svegliarti. È un sonno magico, quindi non è che se ti tirano uno schiaffo ti svegli. Tranquillo, io sono costante, io c'ho un... E no, è il prossimo. Eh sì, manca uno. Manca però uno. Ha contribuito, ha innegabilmente contribuito. Vabbè. No. Lieto tipo, cos'è? È il terzo 6 che tiro? È coerente, il prossimo farai 5 perché è il momento in cui dovevi far 6. Esatto. Tocca a Nibel, vai. Mi sembra che siamo a 8 anche a te. Hai due roll, prendiamo il più alto. Tondo, ti svegli. Assolutamente. Mi dà la tippa. Allora, ti risvegli dopo un po', quindi sei un po' rintontito. La situazione non è come te la ricordi. La ragazza, donna, che stavi picchiando è a terra gone, cioè proprio non sembra nemmeno respirare. Alla tua sinistra c'è una delle due tizie che sparavano, che è avvolta da un manto di tenebra e ha il vestito strappato, dei segni di fiamme, robe del genere. A fianco a lei c'è un'altra tipa knockout. Dietro quest'altra c'è il tizio con l'arco che sta sbavando mentre dorme. Dall'altro lato invece hai Mif a terra in un bagno di sangue che ora è coperta da rami. Adone che è anche lui messo malissimo e sta schiaffeggiando Lieto. Lieto che dorme. E il tizio grosso che ha a fianco a Lieto un po' piegato in avanti. Vai. Mi muovo qui, mi antepongo tra lei sì. E il rettore del gruppo e tiro un cazzotto, ti tiro proprio un pugno, non uso check. Il... Sì, di 10 più 6 sì. Mi sembra. Più... sì, più 6. Sì. Solo uno fallisce. 4 entra, tira i danni. Yes. 2 sì. E poi la seconda azione un tiro d'alto. Sì. Posso farlo, no? Sì. Certo. Le base per futura altra condizione. Ok. Uguale a prima. Entra, tira i danni. 6. Il primo pugno la fa piegare in avanti. Il calcio la stende. Cioè, proprio il collo gli va all'indietro e perde i sensi. Tipo colpo di frusta. Perfetto. Fuori combattimento. Azione extra non posso fare niente. Cioè potrei sprintare però. Come vuoi. Ho già fatto il movimento. E sarebbe l'ultimo credo sprint. Vero ce n'hai due. Sembra. Qua non c'è scritto. Forse mi confondo con l'altra classe che c'ha gli sprint. La prowess ho due utilizzi. Sprinter qua non c'è scritto. Sì niente. Sì non è vero. Puoi farlo quanto cazzo vuoi. Allora lo uso perché tanto ovviamente di uno l'evasione anche se non mi muovo. Sì. Perfetto. Fine del tuo turno, andiamo a Mif. Perfetto. Mif si gira verso lo stronzo grosso e gli fa: muori di paura, bastardo. Facciamo i power. Emotional power. Allora. Ah, ok. Sì. What the fuck? È già spaventato? Sì. Un di 6 danni da paura. Scusa, 3 di 6 danni da paura, visto che lo paghi... Se lo paghi col mana sono 4 di 6. Aspetta. No, sono 3 di 6. Lo pagherei col mana. No, ti serve una skill che non c'hai. Quella da Scholar. Quindi niente, sono 3 di 6 danni da oscurità. E non posso farci nulla. Vai, tira 3 di 6. Vedi questo che urla come un pazzo, cioè proprio da far tremare la chiesa, e praticamente non subisce danno. Io non so cosa fare. I don't know, man. Hai un'altra azione base e un'azione extra. Forse non subisce da... Ok, da tirare un pugno a questo. Niente, mi si allontana un pochino. Fa qualche passetto... Si conta che c'hai 16 di vita, quindi questo ci mette 6 turni ad ammazzarti. È vero, è vero, è vero. Mentre Adone ci mette un pugno. Esatto, no. Allora... Mif, diciamo che si avvicina al tizio, perché tecnicamente è ancora spaventato da lei. Sì. Ah, si mette a fianco ad Adone, scusami. Perfetto. Eccoci. Tocca al tizio, la difficoltà è 10, e io ho più 3. No! E rimane paralizzato dalla paura e non si muove. Tocca all'altro tizio in alto, che è addormentato, la difficoltà è 10 anche qua. Rimane addormentato, tocca a Lieto. Prego, devi fare 6 sul dado. 6 sul dado, è il momento di... Dai! Dai! Non ho mai visto qualcuno dormire così bene in tutta la mia lunga vita. Adone! Pronti! Allora... Mip ti intima di andartene. Vabbè, minchia. Allora, aspetta un attimo che mi si è... Non mi si è scollegato al wifi, perché non riesco a vedere. E, Lieto è vivo, è sveglio, è vegeto? No, Lieto sta dormendo. È vivo, sì. Ancora? Dorme anche. Ma mi vedete spostare il mio cosino? No. O no? No. Mi sa stai non la... ti vediamo al tuo roll 20, esatto. Ok, perfetto, perfetto, fatto. Ok. Sai cosa? A sto punto me ne vado, effettivamente, seguo il suo consiglio, anche perché sto tipo letteralmente morendo. 4 celle. E mi sposto. Sì. Scusate, mi si è buggato Roll 20. Quando mai non succede. Che belli i fuochi d'artificio. Non sono d'artificio. Certo quelli sono. Diciamo che. Ok, mi sposto qua. Perfetto. E dopodiché un po'. C'è qualcuno di vivo ancora lì dietro con Nibel? L'arciere è ancora vivo. Okay. Ok, allora utilizzo una moneta, un manapenny per castare passione tormentata su sta tipa. Elemento è un maschio questo, a differenza degli altri. Allegedly. Ah, un tipo. Cioè, male looking. Male looking. allora, boh, dai, facciamo fuoco, perché no? Non può evitare. Oddio, in realtà potrebbe, però non c'ho voglia di farlo. Gli infliggi 3 danni. E recupero 1 fatica. No, quello succede quando fallisci. Ah, ok, è bello. Ok. E recuperi 1 di fatica. No, è andato a segno. No, è andato a segno. Gli hai fatto 3 danni da fuoco, anzi, il suo vestito sta bruciando e lui dorme, quindi... Perfetto. Si sta godendo questa scena, probabilmente nel suo sogno in una sauna. Tocca a Nibel. Nuovo qua. Sono ancora particolarmente scosso, quindi procederò a prendere la scarpata in testa. Prego, come fossi a casa tua. Entra. Sì. Un danno. Unlucky. Secondo attacco, 7 più 6 di nuovo. Entra. 3 danni. Il tizio si sveglia. Si sveglia sotto un mio stivale. Sì, esatto. Come Bootface, il cattivo di Batman che tutti adoriamo. Fino al turno di Nibel tocca a Mif. Tocca a Mif. Oh mio Dio, e allora qua. Shottiamo il tizio. Fiar di nuovo? No, no, no, no. Cioè, mi hai detto che non subisce danno. Non ha subito, cioè, danno prima. Che... Ha urlato così forte che ha shreddato i danni. Su come mai io non ho detto niente. È già la seconda volta che lo fa, di conseguenza Mif comincia a farsi due domande. Esatto, uccide nel sonno quell'altro. Intanto quell'altro è sveglio. Come sveglio? Si è svegliato adesso. Si è svegliato adesso. Cazzo, al secondo allora calcio sì. Di Nibel. Ok, ok, ok. Allora facciamo di nuovo i power. Costo 2, sì, tira direttamente i danni. 0. Quanti erano? 3 di 6, giusto? Sì. 10. Stavolta gli hai fatto male, però continua a urlare e a ridurre i danni in arrivo. Screaming okay. Like a madman. Hai un'azione base e un'azione extra? Direi che siamo a posto. Pensa, se fossi una witch potevi ammazzarlo in questo turno ricastando sta roba 3 volte. Esatto. Eccoci. E... Oh, merda. Ok, tocca a lui che deve resistere al Fear. Minchia, ho fatto un 5. Vaffanculo. Non resiste al Fear. Tocca all'altro tizio che si trova a Nibel davanti. Ti spara due volte con l'arco. Appena sveglio, non è un buon risveglio. Il primo è propizio, quindi faccio prima il primo. Yes, ho 8 di evasione perché mi è finito l'effetto della... sì. Di sprint. Anzi no, faccio il primo normale, che è un 10 più 3. 9 entra. E il secondo propizio, che ha però meno 2. E il secondo fa cagare. Quindi sì, vai a 7 di evasione. Sì. Cioè, e ti colpisce con una freccia che fa un di 6 danni perforanti. 5 danni. Ok. E mi sembra che vai a 19. So, yes. Contato bene. Perfetto. Questa in realtà era un'azione base singola. Con la sua seconda azione base, lui fa una mossa che nessuno di voi si aspetta ed esce dalla chiesa. Ma se ne va? Sì. Ma... what the fuck? E... tocca a Lieto. Rolla, devi fare 5. Quanto ti stai divertendo? 5 totale. Devi fare 5 sul dado. 1! Allucinante. Sono ehi, calmo. Dai, devo fare... Sì. Dopo facciamo una mezz'ora di sessione in cui ti racconto il tuo sogno, perché comunque, cioè, hai vissuto una vita parallela, capito? Come quell'episodio di Star Trek in cui hai imparato uno strumento musicale, hai conosciuto un'altra civiltà. No, no, è l'episodio di Rick and Morty. Anche. Il videogioco. No, no, no, raga, peggio. Tu hai vissuto la tua vita, a un certo punto hai notato che la lampada era strana, c'era qualcosa che non andava e ti sei svegliato. Sì, sì, sì, quella storia lì. Wow. Esatto. Sei sposato, hai avuto figli nel frattempo. Tocca a me. Ma quindi il tipo è uscito, cioè, il tipo se n'è andato? Ci sono le porte della chiesa, ha aperto la porta ed è fuori dalla porta. Lo vedi, eh? È lì. Giocane, gli sparo, no, dai. No, allora Adone, direi che più che fare quello... Com'è messa Mif? A posto? Mif ha 15 HP temporanei. A posto. Mi giro verso il vescovo e vado dal vescovo, allora. E vado a vedere come sta, se posso aiutare ora, non lo so, vado... Il vescovo, odio cane! Il tizio grosso lo ignoriamo, quindi? Sì. Io, ok, sì. Ci sta. Vai, corri verso ora? Sì. 8. Ti sto parlando il più vicino possibile. E fine del tuo turno, tocca a Nibel. Quanto è distante il tizio... la porta? Il tizio in fuga... cioè ci arrivi a prenderlo se vuoi. Senza sprint o con lo sprint? Senza sprint. Perché e allora io voglio muovere verso di lui, afferrarlo e lanciarlo dentro la bandiera. Perfetto, faccio un attimo un conto e ti dico quanto devi rollare. Probabilmente poco, perché tu hai 7 a fare questa cosa qua e io credo di avere 1, quindi devi rollare e fare 2 sugli 10. Prego. A un tiro di roll? Direi che lo puoi lanciare dove vuoi. L'ho lanciato nella centrale praticamente, è uscito fuori, è volato via. lo lancio tipo qua al centro. Per me va benissimo. È atterrato. E tocca a Mif. Cioè, se non vuoi fare altro, Nibel. No, cioè Nibel è palesemente incazzato al momento, cioè non è, diciamo che è un po' fuori controllo, un po' sotto effetto della rabbia, della sostanza, di tutto quello che è successo nell'ultimo quarto d'ora. È vero! Tocca a Mif! Ok, perfetto. Mif fa i power. Questo lo azzero, vedrai. Sì, urla così forte che praticamente non prende danno di nuovo. E niente, papà. Sono tormentata a usare un oggetto, quindi se vuoi puoi. È che io penso di aver capito quanto riduci, no? Di conseguenza non so se ha senso fare 3 di danno. Dimmi te. No, I don't think so. Vuoi fare dell'altro o vado agli altri? No, vai agli altri. Ok. Il tizio grosso prova a resistere al Fear. Di nuovo, madonna! No, questo è il caso. Sta cosa, sì. Lieto in buona compagnia. Bro. Il tizio con l'arco si arrende, alza le mani e dice basta. C'è il coso della bandiera, sono sicuro che c'è la bandiera. Sì, bandiera bianca, eccolo qua. Tocca Lieto. Di 10 devi fare 4, credo. 5-4, non mi ricordo sì, più. Sì. 4. Lieto dopo 3 giorni si sveglia. Ho fatto riposo lungo. Palla di fuoco sul tipo che si sta rendendo. Ho fatto riposo lungo. Oddio. Scusatemi, aspetta, fermo un secondo. Ma sai che c'è una spell che funziona così su D&D? Che se non vieni svegliato per un tot di turni hai fatto riposo breve e lungo. Bello. E catnap. Sì, esatto, bravissimo. Sì. Lieto. Palla di fuoco sul tipo con le mani in alto. Vabbè. non sarò io a impedirtelo, prego, tira i danni. 3 di 4, beh. E dammi un attimo. Devi resistere tu. Paghi con la fatica. Pago quindi la fatica. 3 di 4, sì. E io resisto per dimezzarli, non per... 7. 3 si dimezza. Ha dimezzato, ha preso 3 danni. 16, sì, di mezza. Cioè 15, però di mezza. Prende 3 danni. Sai quanto rimane di vita? 1. 1. A casa. Ah no, riduce i danni di... Riduce i danni di 6. Quindi... Subisce 0 danni. No. Neanche il minimo sindacale? No. Che tristezza. Subisce 3 danni. Devi sparare sulla Cresta Rossina lì. Però ha guadagnato esperienza in Ontica e ha quasi incendiato la chiesa. Che secondo me sono soddisfazioni. Dai. Sono Ontica a livello alla 10? Sì. Cioè, allora, ce l'hai già... Sono a 7, sì. Sì, però ce l'hai già a livello 1, quindi livella 20 perché è il secondo level up. Ah, è vero, è là. Sì, ce l'hai già a 1. tocca ad Adone. Sì, palla di fuoco, non c'è niente interessante a livello 1. Sì. Adone. Ok. Corri ancora verso... Sì, ancora verso il vescovo. Ok, ci arrivi. La ferita del vescovo è stata ricucita. Ora nel frattempo si è risvegliata, quindi con un occhio aperto e uno chiuso sta guarendo il vescovo come può. Vabbè, gli occhiali. E... però cioè vedi il vescovo che è chiarissimo di pelle, cioè proprio è steso, c'ha un'età comunque quest'uomo, alla quale certo, non gli fa bene questo genere di cose. E se vuoi aiutare dimmi come. E posso castare Yu Yu sul vescovo? Certo, ti prendi anche l'esperienza perché sono un dio buono. Sì, yippie. E vai a 11 di coso, perdi 2 di fatica e vai a 3 di... no, 2 di fatica rimasta. Tu devi andare a dormire dopo sta cosa. Sì, sì. Bene. So. E Nibel? Gatto. Wow. Prendo per il collo l'arciere. Ecco, le braccia alzate e una palla di fuoco gli è appena passata addosso senza bruciarlo. Mentre quei trucchi di magia in cui la gente entra nel fuoco e non muore. Ha fatto una cosa del genere. Ok. E Nibel, diciamo... più o meno una ventina d'anni di frustrazione addosso e ha trovato le persone giuste che possono aiutarlo a sfogarsi al momento. Quindi, vero. Considerato anche che in realtà Nibel è un civile, cioè, non ha mai ucciso nessuno, e probabilmente sta per fare la cosa sbagliata al momento, quindi proprio con gli occhi iniettati di sangue prende per il collo questo tizio e lo stringe per il collo. Mi arrendo, ciao. Mi arrendo. Completamente accecato la rabbia al momento, non lo sto ascoltando. Aia, rollami un di 10. Stai stringendo forte, fa fatica a respirare, però è ancora lì, cioè lo stai holdando praticamente. Ritorniamo tra un attimo, Mif. Mif prova a fare di nuovo i power e finalmente consumo le riserve di mana. Bene, 3 di 6. E gli hai fatto male. Sta cominciando a cedere. Hai ancora un'azione base e un'azione extra? No, cioè, penso che si giri a guardare Vince, gli fa ammazzalo. E Vince. The big guy. Sì. Si toglie il fear. Si scuote, ha gli occhi iniettati di sangue, era tutto corrugato, tutto rattrappito su se stesso, invece si alza e ti afferra con due mani e ti lancia verso Nibel. Oh. Vuoi provare tu a resistere o rollo io per farlo? Provo, non ho lo scudo. Sì, sì, tu per resistere... posso rollare comunque. Sì, devi fare un numero alto che non hai fatto. No. Più, più uno. Sì. Arriva un proiettile che è questa ragazzina di un metro e mezzo coperta di legno. E faccio subito il turno dell'altro. Sette. Secondo me basta. Ti fa perdere la presa sul tizio, questa cosa che ti è stata lanciata. E il tizio con l'arco lascia andare l'arco, lascia andare le frecce, tutto. E è a terra che tossisce, face down. Mentre a fianco a te c'è Mif, che è appena stata usata come proiettile. E ti fa snappare, cioè ti fa ritornare un attimo in te. E tocca a Lieto. A fianco a te c'è un tizio grosso che ha appena lanciato Mif, come fosse una palla. Ma ha tirato per colpire me con l'evasione, come funziona? No, no, semplicemente ha lanciato Mif e il fatto che ti ha distratto è un'altra cosa. Il 7 è l'altro tizio che ha rollato per liberarsi. Okay. Sì. E... non è una roba da manuale comunque questa, cioè è una roba strana. Ok. Vai, Lieto. Lieto si sposta dal tipo, non ci vuole stare vicino a lui, è abbastanza fastidioso. C'ho 5 di movimento in paio. Sì, credo che sei athlete. Ok, what now? What now? Blade Rain! Porco dio. E Blade Rain con le lance. Ok, che c'hanno più precisione, mi sembra. E un D8 di danno, anziché un D6. Ok, credo sia... E magia mestia untica 1. Puoi usarne... Puoi lanciarne una in questo turno. Bello. Tu ne crei 2. Sì. E lanci la prima. Ok, perfetto. Rolla per colpire. E la seconda è tipo grande. Sì, un D10 più... aspetta. Più 2. Più 2. Più 4. 8. 10. Più 2, più 2. Allora, guadagni un punto ontica per averlo creato e un punto lance. Lance per averlo colpito con la lancia, sì. Sì. Quanto cazzo vuoi? Sta qua, tira i danni con un D8. Ho scritto 2 volte call, bello. Un D8. Sì, la lancia lo trafigge e gli rimane incastrata sul fianco, petto, quello che è. No. Qua. E quindi inizia a sanguinare. Finora tutti i suoi danni erano psichici o comunque non sul corpo. Questo invece sangue che cola. Adone. Sì, come sta il... Come stiamo? E cosa vuoi fare? Non ho capito. Il vescovo com'è? Stabile? Stabile? Stabile, sì. Non è in rischio di... Non è in pericolo di vita. Ok, gli altri cosa stanno facendo? Scusami. Nibel era andato in berserk, ha quasi ammazzato il tizio che si è arreso. Il tizio che si è arreso è a terra che sta gasping for air. Miff si è allontanata forzatamente, visto che l'hanno scagliata via. Lieto si è creato un paio di lance che ha scagliato verso il tizio grosso, che è l'ultimo ancora animoso. Beh, allora... Posso dire una cosa? Posso andare al cazzo di cane, dai, al medikit a curarmi? Sì, è in un bordo della chiesa, quindi devi fare, cioè, passi nascosto. Va bene. Stai facendo questa cosa qua, sì. Ti stai allontanando in pratica, perfetto. Sì, vedo che sono nel chill. Cosa? Dito, se ne va. Nibel. Se sprinto con loro davanti, cioè posso passare alla loro posizione. Per me puoi calpestare il tizio a terra. Okay. l'ideale è muovermi qua. Sì. E fare 2 attacchi. Tira una volta con l'intento di stordire, cioè di l'intento di uccidere al momento. Ok. In questo sistema dipende dai roll questa cosa. Cioè, se gli fai... Ah, ok. Se la sua vita scende a 2 per il suo livello, sto 0, muore. Ok. No. Miss. No, come 9? Ho più 6. Figa. Verissimo. Dammi un secondo. Lo prendi e come? Tiro sull'Ariat, cioè arrivo proprio a braccio teso. Ponk. Vai. È un D6 pulito, mi sembra. Sì. Vai. Ok. Poi attacco 8 più, va. Più 6. Sì. Poi calcione, big boot. Undertaker. Il tizio grosso ti fa cenno con la mano di fermarti e dice: riconosco la sconfitta. si ritira sul cappuccio. No, picchialo. Vabbè. Se ci lasciate andare non avrete altre conseguenze. Come facciamo ad averne la certezza? Non puoi averla, ma se noi non usciamo da quella porta, arriverà sicuramente qualcun altro più grande e più cattivo di me. Guardo gli altri, vedo cosa vogliono fare. Mifo c'ha l'odio per questa persona, cioè è veramente personale. Per lei potrebbe benissimo morire sotto un fuoco. Dietro si è svegliata e ha scoperto che gli ultimi 20 anni non erano veri, quindi è molto incazzato. Sempre l'uomo grosso, che prende un bel respiro, quindi i suoi muscoli si sgonfiano, si leva uno dei bracciali che ha, è nero, non ha un anello, questo ha un bracciale, e dice: vi lascio questo. È un simbolo della famiglia. Mostrandolo alle persone giuste potreste avere la vita più facile. È il massimo che posso offrirvi. Lo prendo in mano, lo guardo un attimo. E guardo gli altri. Ti fermo solo per dirti che è un anello, cioè... è grosso come un braccio, però è un anello di metallo, nero. Quindi tu che sei un minatore potresti dire che metallo è? Vabbè, sorvoliamo su questo aspetto. Sì, adesso non sono nel mindset per farlo, probabilmente. Esattamente. Però vedi chiaramente che c'ha un'incisione sul lato interno ed è in una lingua runica, mi viene da dire, quindi non del posto. Ok. Tra l'altro, se non sai leggere questa informazione, non è così rilevante. Però, boh, è il dettaglio che vedi che c'ha delle incisioni all'interno e non sono familiari. Mi fa prendere la parola e fa... Quindi siamo accettati in questa città o dobbiamo andarcene ancora? Non avrete... Perché come hai visto, nessuno qui non ha paura di menare. Da noi non avrete più magagne. Attimo. Ma quello che Cass non vi ha detto è che non ci siamo noi soltanto a competere per il dominio della città. La famiglia è abbastanza attiva a Kainoe, il quartiere nuovo dove vi trovate ora, ma gli altri quartieri sono in mano a poteri diversi. Che genere? Beh, diciamo che noi siamo i cattivi e loro sono i buoni. Dovremmo preoccuparci di loro. Noi ci limitiamo a spacciare, ammazzare qualche persona scomoda e trafficare armi e altri materiali. Loro fanno cose che non si sanno. Presente la centrale? Noi non abbiamo niente a che fare con quello, loro sì. Capisco. Dicendovi queste cose mi sto mettendo in difficoltà, in pericolo. Però, visto che l'alternativa è perdere la vita... Beh, direi che potete anche uscire da questo posto. Mi sposto... Sparare ad un vescovo. Chiesa. Il tizio passa molto lentamente. Fa cenno al tizio che ha ancora le mani in alto di alzarsi e smettere di fare il pagliaccio. Lo chiama per nome, dice: ah, Yas, smettila. Ogni cazzo di volta. Tira su Cass. Io prendo le altre due. La pesa, Cass. Smettila! Vabbè! Wow. E molto lentamente fobia. Escono dalla porta. Clonk. Adone nel frattempo si è curato col medikit, quindi sei fully healed. Hai zero di fatica, sì, comunque. Hai tipo, hai la quantità di fatica che te era rimasta, che è pressoché nulla. E il vescovo è dorme, cioè non dorme per la magia, dorme perché è esausto. Cazzo. E ora... No, cazzo. Si è preso un proiettile. Alzati. Ha perso molto sangue e ha una certa età. Sembrano tutte scuse queste. E no. Ora è seduta per terra che si sta guardando intorno. Dreamy. Ok. Mi sta speso sul po' di vedo. Amici, scusate, voglio chiedervi quanto pensiamo di andare avanti, perché io mi sto dormendo. Ti sento, facciamo l'ultima interaction e chiudiamo? Dai. Sì, grazie, direi. Scusate. Perfetto. Tutto quello che volete dire, fare, baciare, lettere, testamento. E se vuoi, Eddie, vi darò esperienza e altre robe. Te le posso dare la prossima volta che ci sentiamo, se... sei cotto. Va bene. Magari noi restiamo a fare queste cose qua. Non dovrebbe essere lungo e non dovreste fare il level up, cioè presto. Però. Ok. Ditemi voi cosa volete dire fare. Dietro si guarda intorno. Adone. La lancia in mano. E questa? Me la fino nel culo adesso. Che ci faccio? Vabbè. Adone rota un attimo gli occhi, ma comunque quando vi raggiunge vi dice... a voi tutti, avete fatto bene a lasciare andare quella persona. Già, ma come hai fatto a fare quello di prima? Mi fa ancora steso sul pavimento, che sta contemplando. Her life choices. È una magia naturale. No, crescere della corteccia... No, Adone, no, tu hai lanciato delle lance di elettricità. Adone ti guarda confuso e dice, hai sbattuto la testa? Ma lo vedi che lo dice con un fare genuino, non ti sta prendendo per il culo. Miss invece si sente preso per il culo. E ti guarda e fa, devo scriverti anche quello perché tu ci creda oppure ti fidi della mia parola. Adone ci rimane un attimo così a questa interaction e capendo che la cosa è seria, dice, io non ho idea di cosa tu stia parlando. Non... Hai lanciato non lo so. due cose grandi, ok? Hanno trafitto un sacco di persone. È stato molto utile, però quando ti ha svegliato lo stronzo, hai smesso di fare quello che dovevi fare. Adone si preoccupa. E a questo punto dice, io mi non ho idea di cosa tu stia parlando, non sono cose che so fare. E... Bianic, il mio dito meccanico è sempre sul dito? In che senso? Mi stai chiedendo se ora anche il medio è meccanico? Esatto. No! No! No! Allora, vedi che appunto Adone si guarda la mano sinistra e vedi l'orrore della faccia di Adone quando realizza che adesso ha due dita di metallo. In più senti tutta la spalla e gran parte del lato sinistro del corpo che al movimento sono estremamente lenti. Vedi che Adone cerca di far roteare il braccio come se dovesse far stretching, ma vedi che è lento come movimento, quasi meccanico. E vedi proprio l'orrore nella faccia di Adone. Dice, no, cosa è successo? Cosa ho fatto? Cosa non ho fatto? E vedi che sta andando nel panico. E insomma, song. Ci serve un altro feto qua. Cosa? Non è Galfitto quello che aveva curato. No, è il coso, niente, never mind, never mind. La dici sta cosa del fit? Oppure... Secondo me in caso, no, no. Cioè, è una roba che farebbe lieto di confondere gli eventi. Sì. Vabbè, era tutta la stessa serata alla fine, che cazzo vuoi? No, no, no, il fit era dopo, never mind, continua pure. Prima? Durante? Durante? Io ho una domanda importante, ma questa è canon. Vai. Adone è magnetico a questo punto. Come cazzo Dio fai cane. A saperlo? Il magnetismo l'hanno scoperto nell'Ottocento. Ma i magneti naturali sono sempre esistiti. Ti servirebbe qualcosa che... Ok, ok, ok. Vabbè, comunque, Adone sta avendo una crisi esistenziale, fate voi. Nitto si gira verso gli altri e chiede se è tutto a posto. Vabbè. No, no, si sta avvicinando alla sua morte, probabilmente. Ora è tipo, io ho fatto un sogno strano. Che genere? E praticamente stavo camminando in un prato, quando a un certo punto il prato è diventato morbido e ci sono cascata dentro, e non era un prato, era un telo, e dentro il telo c'era l'acqua, e dentro l'acqua, non lo so, non mi ricordo, però era strano. Ah, oh, ok. Io c'avevo moglie e figli. Beh, anche lui. Ma tutti abbiamo avuto sogni strani? Ho castato nero, ma sì. Vedi che ti guarda. Mi sapete con confusione. Poi con rabbia. E poi tipo... Ah, ah. Ti passano mano sul viso. La mano di metallo, poi si tocca, la guarda, si ripassa la mano con l'altra mano ancora di carne, dice, no, è tutto un disastro. Sei giovane per una magia così avanzata? È ora che parlo? Sì. Necessità. No, ferma, ora, tu sai che magia ho usato? No, parlavo di lei. Avrò un mif. Non ti ho visto usare nessuna magia. Dormivo. Si chiama Oneiromancy. Hai la capacità di controllare i sogni altrui, soprattutto di vederli. E può anche fare tanto male. Tre di quelle persone che erano unconscious, non mi viene in svenuti. Italiano. Svenuti, grazie. Li ho fatti venire io. Molto interessante quando ci prendi la mano. Mi dispiace se vi ho addormentato tutti. Nessun problema. Adone sta avendo un tic all'occhio. Effettivamente mi serviva un riposino. Però almeno avverti la prossima volta. Mi appoggio tipo alla lancia abbastanza stanco. La lancia vola. Sì, ci appoggio la fronte. Quindi... Ah, ok, esatto. Cioè, puoi fare quello che cazzo vuoi con la lancia, era quello che ti volevo dire. Sì, ci ha appoggiato, sì, tipo qua a fronte. Mif si gira verso le fa. Posso tu? Ti ho visto rancoroso. Okay. A te, Nibel. Okay. Nibel, ok. Sì. Tanto vedi Mif che sta, cioè, sputando ancora un pochino di sangue, è un HP di vita, non so quanto duri, Yu-Yu. Finché non lo ritira. Sì, Mash, infatti. L'ha ritirato sul vescovo. No, finché non lo cancella. Ah, ok, ok. Quindi dai, tu sei una... La pianta. Una fresca. Esatto. Sì. E niente, appunto, ti chiede questo. Chiede come? La domanda che gli ho fatto prima, ti ho visto rancoroso. Ah, scusa, non avevo sentito. Diciamo che sono stato un po' preso dalla situazione e dagli eventi. Ne ho perso un po' il controllo. Ho rischiato di fare un passo più lungo della gamba. di non poter più tornare indietro. Non, non so voi da quanto state in giro, da quanto avete a che fare con queste cose, però non ho mai avuto l'opportunità di togliere la vita ad una persona. E spero che questa cosa arrivi il più tardi possibile, ma sono sicuro che se continuiamo per strada prima o poi dovrà succedere. Cioè, ora che sta guardando da tutta un'altra parte, tipo così. Vabbè. Cioè, li hanno portati via. È abbastanza presto, non li hai ammazzati veramente, probabilmente. No, per ora sembrano... Nel senso che... che trovano... Necropante non è un problema. Non ne so di queste cose. Senso. Rimane il fatto che l'atto per fidati, è uno sport della mia università. Lo so bene. Studenti di necromanzia. Mi hanno dato questo comunque come certificato. Diciamo così. Vabbè. Mi rollate il D10. Vabbè, tranne Nibel. Ma io guardo il metallo. Ah, sì, ci sta. Allora, mi fate storia, voi tre, e tecnologia, natura. Nibel. Tecnologia o natura? Sei per lieto. Quello che vuoi. Ma a me interessa non la parte manufatturiera, diciamo. O il metallo. Va bene, vai. Io ho fatto in totale 10. Io 12. E... 10. Allora... Domanda, vuoi dirlo agli altri MIF o te lo vuoi tenere per te? Se te lo vuoi tenere per te ti sposto. No. Aspetta, ha fatto 10 anche Adone? Sì, ho fatto 10. Ok, no, allora voi due siete pari. Cioè, siete entrambi nello stesso coso. No. E lo dico a voi due, poi immagino lo condividiate agli altri, per questo non vi sposto. Sì. È chiaramente uno delle icone della Corona Nera. Corona Nera è l'associazione sovrastatale, conoscono tutti, eccetera, eccetera. E normalmente si usano degli anelli che si portano al dito, che devono essere facili da nascondere. L'utilizzo di robe così grandi non è per niente comune dalle vostre parti. Cioè, sembra quasi di voler far vedere a tutti che fai parte di un'associazione del genere. Che... per quello che siete abituati voi, è cioè il contrario di quello che volete. L'iscrizione all'interno, Doughty something something, per Adone è illeggibile, per Mif dovrebbe essere l'equivalente della lingua antica della sua regione, quindi okay. Tra il latino e un tardo volgare medievale. Dice qualcosa tipo per Nostra Signora del Dolore Doughty, una cosa del genere. Okay. Mentre Adone capisce solo Doughty, il resto no. Su chi sia Doughty non c'entra con questo roll. E quindi niente, è solo un simbolo di appartenenza, cioè, vi ho detto tanto mi sembra. Per quanto riguarda il metallo, hai fatto 10, quindi è un buon tiro. Il metallo nero è una lega di ferro realizzata realisticamente usando delle forme di magia. Cioè, non esiste questo metallo che si può estrarre da una montagna, cioè da una miniera, eccetera. Deve essere prima modificato in qualche modo. Il nero in genere dipende da tracce di carbonio o altri materiali. Non so nel 1600 quanto sia nota questa cosa. Fatto sta che la Corona Nera usa i cadaveri per potenziare il metallo e creare una lega nera. Non è la Corona Nera che lo fa, è una tradizione dell'estremo nord, degli antichi popoli minatori del nord, che la Corona Nera ha ereditato e utilizza praticamente solo esclusivamente per fare gli artefatti. Gli artefatti, gli anelli, i simboli di appartenenza e cose del genere. Per lieto, mi sento di dirti che la fede di tua madre sì. È di quel metallo lì. Sì, li avevo riconosciuti, Sì. cioè, se non Ah, è no, che era non per... c'era molto da... Volevo mettere i puntini sulle i e darti qualcosina anche a te, visto che non ti ho detto un cazzo per ora. E mi sembra che non ci sia tanto altro da dire. Il metallo in sé non ha praticamente nessun valore commerciale, essendo legato alla mafia e alle robe magico-religiose. Quindi da queste parti ad Apeira è spazzatura. Letteralmente, se fosse antico potrebbe avere un valore in quanto reperto, eccetera, ma così è trash. Ok, fate quello che volete, Capito, dite quello capito. che volete. Boh. Comunico l'origine del metallo agli altri. Mi fa... Non so, scusate, Dice più o raga, io meno sono quello che ho chiuso. scritto. Sì, dai, lo chiudiamo. Ok. Vabbè, sì, chiudiamo qua. Va bene. Ritrovamento della... Vai, Eddie, se vuoi ci salutiamo e do tutti i punti. Ciao, Sì, scusate, Bianici, ti ci mando una. sentiamo. Ciao, ciao. Ciao. Notte. Ciao, ciao. Devo Per finire, l'it e mezzo, buona. Bianici, ti mando una lettera. Per pronome. Certo. Allora, avete ammazzato 5 nemici. Ne avevo 1, 2, 3, 4 di livello 3, 12, e uno di livello 4, 16 punti da distribuire. Sono un dio buono e quindi vi faccio distribuire i punti come volete invece di darveli io da bastardo. E semplicemente aumento i punti che avete di 4. Ah, prima non te l'ho detto perché stavamo combattendo, però ho messo 2 punti extra su senza armi. Dei Sì, perfetto, ha fatto benissimo. due turni che non che ho fatto. E poi l'esperienza, avendo battuto. Sono sempre 16, fratto 4, guadagnate 4 punti esperienza a testa. Molto semplice. Non credo che nessuno di voi possa livellare con questi bonus. No, infatti. Però appunto è un piccolo passo avanti. Mi rollate tutti un D20 voi tre? Oh, cazzo, ho Yes. chiuso ora un 20 da punti. Un di Allora, 20, rollo io. volevi? 18. Ok. Io ho fatto 8. Allora, rollo io, Sara. No, no, sta arrivando. Sì, 10 secondi. Di 20. 9 mi è venuto. Quindi abbiamo 8, 18, 9. Sono il Yes. numero di manapenni che avete trovato dai nemici che avete sconfitto, cioè nella colluttazione eccetera, trovate non manapenni direttamente, ma materiali e altre robe per un valore totale di 8, 18 e 9 manapenni. Ok. E... Restano invariati. cazzo sei? Sì, esatto, ti metto nell'inventario staff e ci metto valore 9 e lo faccio con tutti. E questa roba semplicemente andando al mercato la potete vendere. Al limite, la prossima volta che giochiamo, possiamo entrare nel dettaglio di che cos'era sta roba. Tipo, Ok. il tizio con la faretra ha droppato la faretra, quindi potete aver recuperato quella. Sì, Arco frecce, sì. E niente, semplicemente la prossima volta determino anche questo. Bom, basta. Io spero sia stato fun fare il combattimento. Ika si è Ma... passato tutto il tempo addormentato. peccato. Mi piace un sacco, Ika. No, no. Eddie al posto tuo sarebbe esploso, sarebbe venuto a casa mia a picchiarmi. Capita a tutti, non è uno. Sì. I dadi sono i dadi. Dati sui dati. Ma quindi niente Aram della buonanotte. No, no, no, niente, ma... Damn, sei proprio No. sfatto allora. È abbastanza, sì, in realtà. Vedi, ma nei romanzi in realtà c'è ancora. Lo sto sondando io. Che ti avevo detto su Telegram la cosa. Allora, figo, l'avevi già mandata questa? Sì, Ish, sì. Mi sembrava che l'avessi già mandata. Volevo mandarle una cosa, poi non l'avevo fatta la volta scorsa. Ma per me possiamo fare che l'hai mandata la volta scorsa. Quando hai fatto i giri l'hai inviata. La posta normale, e questa mi sembra che sia normale. Sì. Ci mette un botto ad arrivare, quindi ci vorrà una settimana prima che ritorni la risposta, se non di più. Ma è, quanto mi costerebbe la posta express? La posta express non esiste, vuol dire che devi andare da qualcuno che te la spedisce con la magia. E con sì, qualcuno, sì, intendo dire, un membro della famiglia. Capottana maledetta. Allora attendo la mia settimana, I guess. Ok. Cioè, è una settimana in condizioni normali, poi vediamo. Sì, sì, sì, sì. Riesci a scrivermi da qualche parte, tipo, non lo so, su Arms o comunque dove vuoi, le proprietà di senza armi? Sì, te lo copio in collo. Detto questo, io mi eclisso. Va bene. Ciao ciao. Ah, io ti copio e incollo in Arms la cosa, però tieni presente che tu hai un'abilità che modifica questo effetto e ovviamente ha la precedenza all'effetto che lo modifica, ovvero un di due danni diventa un di sei per l'altra cosa. Non ho capito, scusa. Di base ti dà un di due danni da impatto, mentre sì, tu hai una passiva che dice D6, esattamente ha la priorità al D6, ovviamente. Certo, certo. E il resto invece è giusto, credo. Fai stira senza armi più una precisione per punto comp. Ok, ah, ok, quindi la... allora non so neanche se investirci più di tanto su senza armi. Spero che le robe in futuro non mi diano robe aggiuntive. Dove dire, vabbè. Però ci penso. Perché per ora la mazza, cioè col fatto che non c'ha un cazzo sì, di precisione, fatico. Sì, però cioè, l'idea è che quando itta fa da 5 a 10 danni, che è un sacco. No, vabbè, da... Sì, perché c'ho anche Prowess che non ho usato. Mm-hmm. Prowess per rollare gli attacchi, però sì, il fatto che... è sempre lo stesso numero. Sempre su un D10 più 1. Sì, sì, sì. E poi, a meno che poi in futuro non cambio l'arma, però per ora menare le mani mi sembra la buona idea. Mm-hmm. Sì, sicuramente è più facile. Ok. Ike è morto. Salutava, immagino, sì, sia andato a letto. Ah, ok. Avevo sentito. Ok, dai. Ah. Ho lanciato una persona, finalmente. Il mio 7 a sollevare è servito a qualcosa. Eh sì! Sì, sì, ma infatti... per come è fatta sta campagna, sollevare è molto più utile del resto. Sollevare, storia... Sì, purtroppo... Sì, in realtà posso, cioè, in realtà generalmente sui TTRPG lo zoning è molto importante. Sì, quindi sì, sì, sì. Potrei avere sprinter che mi avvicino, corro di più, piglio qualcuno, lo butto nella zona dove deve essere buttato in modo che gli altri possano castare le robe per fare le cose away, ci sta. Sì, sì, sì, ma è, infatti è super versatile. Diciamo che non ho zero dialettica, fa quello che deve fare, però va bene così per ora. Quanto riguarda le classi, ho detto che adesso abbiamo XP counter 24, quindi avrei 25 visto che ho fast learner. Sì, esatto, sì, sì, sì, sì. Aspetta che lo segno anche agli altri che c'hanno quella cosa lì, che sono... Mif c'ha il background nobile? Sì. Ah, sì, che deficiente, è vero. Sì, I beg your pardon. E anche gli altri non ce l'ha nessuno No, questa c'hanno cosa. tutti il background nobile, c'hanno l'altra cosa. Io sono poveraccio, quindi imparo in fretta. Sì. Mi dovrei avere 25, mi pare. Per quanto riguarda le classi, com'è che funzionava la sistemare l'expert? Ci sono le formule in Pentagon, dipende da quante classi hai e dal loro tier. Tipo, se vuoi prendere una classe nuova, in realtà costa 20 più il tier della classe nuova che prendi. Mentre per livellare una classe che hai già, dipende dal totale di livelli che hai. Quindi in questo caso, 6 al 3 costerebbe 30 più il tier della classe. Brawler è tier 1, quindi livellare Brawler ti costa 40. Ok, quindi gli XP counter sono l'XP che ho adesso, cioè Sì, non è l'XP totale che possiedo. esattamente. Ok, Quando. quindi se vorrei passare a Brawler 2 dovrei arrivare a 40, Sì, dovresti esatto. E 40. quando arrivi a 40, quei 40 li spendi e ritorni a 0, però c'hai il 2 di brawler. Ok. E quindi se voglio prendere un'altra classe invece dovrei spendere quanto? Allora, una classe tier 0, 20 mi sembra. Dovrei andare a guardare, ma mi sembra il numero di classi che hai, quindi 20. Classe tier 2, tier 1, il numero di classi che hai più 1, quindi 30. L'unica cosa è che comprare una nuova classe Ah, aumenta tutti i tuoi costi. Quindi ok. è meglio farlo all'ultimo. Cioè è voluto per evitare che multiclassi subito. Multiclassare Sì, no, subito ti dà un botto di mi vantaggi, quindi l'ho reso più complesso. Cioè sì, più. no, infatti, vabbè, ne avevamo parlato, comunque dipende dalla storia un po' come va per ora. Ok. Comunque worka il personaggio, cioè appunto devi shreddare l'evasione e poi li meni col piccone. Fa anche rima. Sì. Vabbè, metto io 25 l'XP counter, lo fai tu. Sì, fai pure. Ok. Sì, vabbè, adesso devo sperimentare ancora un pochino, visto che il piccone colpisce poco. Però colpi senza armi funzionano bene. Sprinter funziona bene per il tipo di personaggio che ho. Cioè mi aggiunge 2 di velocità, tipo a 5, che non è tanto, però Tanto funziona bene. fatto che tu non abbia gente che ti a menare. Cioè, perché se così in due era tutto più semplice con l'evasione. Non ho Capito? capito. Faceva scendere l'evasione. Cioè, per forza se jumpi in due, qualcuno che ti rende Sì. le pecconate, cioè ti rende la vita molto più facile. Ah, tu dici, cioè se continuo a menare col piccone abbasso l'evasione del. No, no, no, che se ci fosse qualcun altro con le Ah, se ci cascabelle. fosse un altro amico, Esatto, ok. cioè il party purtroppo ha tre caster. No, vabbè, ma ci sta, cioè io ho Lieto scelto. è ibrido. È vero. Io ho scelto uno melee consapevolmente del fatto che molti di voi eravate caster, cioè ne ho parlato con Bianic apposta. Sì, Anche no. perché è più facile per me approcciarmi ad un sistema nuovo senza star dietro necessariamente a tutti gli incantesimi che ci sono. No, ma ci sta, c'è una scelta che comprendo. Magari se mi fossi ricordato che avevo vantaggio ai tiri di resist, ci scrivevo prima. Letteralmente la prima riga di Iron Body che ho pure controllato tipo 3 volte, ho detto, ma Iron Body cosa fa? Una volta per incontro puoi ridurre il danno d'impatto, ma che non mi serve adesso, affanculo, era la prima riga e l'ho saltato. Lol. Anche perché onestamente, cioè se io tentavo svegliarti facendo danni, ti ammazzavo. Cioè, nel senso, fa tanto male un Aeromancy, di conseguenza svenivi, non ti capirai. Io avevo 24 punti ferito. Ah, ok, allora no. Poi, se no, io ho un botto di vita, cioè ho rollato anche bene. Tra Dove l'altro, Bianic mi Max? ha detto: ah, puoi partire cappato. Ho detto: no, mi ha scoppiato il braccio e continuo il rollo. E quindi, cioè, perché io di massimo di punti ferito ho 38. E Max Rollato lo sconfiggevi tondo con Eh sì. Aeromancy. Non mi aspettavo facesse così tanto male. Ma è tier 2, cioè ci sta. Il Sì. punto è che tu hai una quantità di mana che non ha nessun cazzo di senso. Cioè non è normale sta cosa. È l'unica. Nel senso, lo so perché c'hai così tanto mana. Perché hai una classe tier 2 senza avere i livelli da classe tier 1. Quindi hai skippato qualcosa lì. E hai i grimori che ti danno mana extra. Sì, Il però. gioco non è bilanciato per fare ste robe qua. Però ci sta. Però Però ho un un elmetto. livello da scolar. Sì? Sì, ho un livello da scolar. Ah. Pensa a te. Che è quello che ti dà mana aggiuntivo, tra l'altro? No. Sì. Forse sì. Eh Sì, sì, sì, sì. non l'abbiamo scritto. Me lo scrivi? Forse sì. Ecco Aspetta che vado a prendere la descrizione. perché 15 di mana. Io mi ero segnata 10, ritrovando il roll, però ci sta che sia 15 per quello. Mind Power, che okay, ce l'ho qua. L'anello chi lo tiene nell'equipaggiamento? Lo tieni. Come vuoi, cioè di base l'hanno dato a te, quindi se non lo cedi a qualcuno te lo puoi segnare. Ok, va bene. Pari alla tua M, quindi 3, avevo 13, non seguivo. In caso se qualcuno vuole prenderlo, glielo cedo. Ma c'è conta con equipaggiamento, c'è qualche effetto tipo. È un bracciale nel senso che lo puoi equipaggiare come arms, cioè in arms puoi equipaggiare guanti e bracciali. E di base non sapete cosa fa, quindi È da provare. Ok, vabbè, presto. Vediamo serve la poi. Bravo. Scroll of Wisdom. L'ho capito capito. anche io. Comunque qua chiudo. Domani ci sei, Bianic. Come? Domani ci sei. E domani è mercoledì? Sì. Forse vado al mare al giorno, la sera mi sembra di non avere niente da fare. Quando vuoi, dato ci sono sempre. Vabbè, ma ti faccio qualche domanda sulla mia Sì, campagna che ti scrivo. volentieri. E ti faccio sapere con sicurezza domani, però di base mi sembra di non avere altre cose. Yes, tranquillo, tranquillo. Bello. Mi è piaciuto sto file. Bello, bello. Yay! Sono contento. Ammetto di essermi impanicata un Quando il tizio con quando 50 di vita ti viene contro, ci sta. sì, ma anche quando c'era il save così alto, cioè ho detto oh, ho fatto una cazzata. LOL. Secondo me con questo sistema ti stai azzaffando le gambe da solo perché c'è un bordello di tracking. Sì, ah, infatti tante cose le volevo semplificare, tipo, allora, alcune cose secondo me è solo perché siamo online. Dal vivo io avevo in mente di sviluppare proprio i tool per segnare tutto, cioè l'esperienza ho in mente di usare delle schedine apposta, anche, come si dice, click, cioè di cartoncino da slidare, che sono abbastanza comode. E per l'evasione pure, cioè averci uno slider in cui te ogni volta che eviti un attacco scali di uno e quindi che c'ha un Sì. minimo quella cosa lì, quindi in realtà dal vivo con il tool è veramente comodo. Puoi fare tipo, hai presente i giochi da tavolo, quelli basati su D&D che hanno tipo la schedina, cioè che tipo Sì, un una 5, esatto. tipo una 5 con Sì, zero così. sì, sì, sì. E Una roba del infatti genere. molte cose che sono un po' clunky online sono per questo motivo qua. Altre cose invece sono d'accordo che è proprio. Secondo me, se posso darti un consiglio per quanto riguarda la riduzione della CD, per quando c'è da rifare i tiri più volte, cioè se devi stare a traccare ogni singolo personaggio quanto diventa più facile, ti direi dopo il primo turno, dal secondo turno in poi propizio e basta, perché tanto è una media di 2.5 punti in più al tiro. Ci sta. L'altra cosa che avevo fatto, cioè il problema è che alcune cose sono per combat, non per malus, e alcune sono per malus, tipo il fear è per tutto il combat, mentre invece atterrato è per atterrato e basta, cioè se ti ritiri su e io ti rispingo a terra è un altro malus e si resetta, quindi c'è un po' sta differenza. In questo modo erano tutti paritari. Vanno... Ma tipo per oneromanzi, che comunque sono passati tanti turni. Sì, oneromanzi è... Livello... Sì, allora... Tutte le spell tier 2 sono una merda, nel senso che sono veramente sbrocche, quindi fanno cose strane tipo questa. Sono d'accordissimo sul fatto che traccare 6 personaggi che hanno tutti il malus è strano e bisogna trovare un modo più efficiente per farlo. Ma te l'ho detto, dopo il primo tiro, quelli dopo sono propizi, cioè sono li tiri con vantaggio. E basta. È più facile risvegliarsi. Cioè, ovviamente, chiaramente... Dal punto di vista puramente numerico, continuare a calare la difficoltà andando avanti coi turni è più cioè ti permette di avere più successo man mano che vai avanti. Sì. Però almeno così uno non tracchi, perché comunque è una media di 2.5, quindi vuol dire che devono passare tipo almeno due turni per avere lo stesso tipo di vantaggio che avresti calando turno per turno, quindi probabilmente è più facile risvegliarsi all'inizio. Però non devi stare dietro ad ogni singolo NPC che devi fare per vedere quanto deve diventare più facile per lui. Sì. Anche per i giocatori è più facile, perché poi non devono stare dietro al tracking, perché è molto facile che il giocatore non ci sta dietro, ci devi stare dietro tu lo stesso. Quindi vuole rollare con propizio e basta. E l'altra cosa semplicemente è di fare un tiro comune, cioè cambiare la spell, che invece di applicare un malus a ogni NPC, quando si sveglia uno si svegliano tutti, però diventa un'altra spell in effetti. Potresti fare che non è una questione di resistenza dei personaggi, è una questione di concentrazione del cast. Anche, sì. Sì. Sì, ha molto più senso. Sì. Sì, cioè, allora, la domanda è concentrazione. Che funziona come D&D, che ogni turno bisogna tirarlo. Tipo come Pathfinder? Tipo Sleep, per esempio, che è l'incantesimo di livello 2 o 3, non mi ricordo. Non mi pare che ci sia il tiro salvezza per riprendere... Cioè c'è una durata, e se vieni colpito... O se vieni, se qualcuno fa un'azione su di te, ti svegli. Però finché non ti capita qualcosa, rimani che stai dormendo. Però chiaramente è una situazione diversa rispetto a... Concettualmente la stessa cosa, perché devi addormentare qualcuno, ma questo è un incantesimo diverso. È più controllo del sonno, dei sogni. Quindi ci sta che comunque ci sia un tiro salvezza, anche perché ci sono conseguenze più gravi. Però c'è l'opzione del fatto che puoi avere il caster cioè il primo tiro per salvarsi all'inizio magari è un tiro salvezza di ciascuno di quelli che sono stati afflitti dalla magia, quindi almeno lì il personaggio o l'NPC di per sé usa la sua caratteristica per resistere alla cosa. E poi per i turni successivi magari è il caster che mantiene la concentrazione sull'incantesimo, deve tirare per mantenerlo. Anche lì devi vedere, tipo, ok, c'è cioè il primo turno, cosa fa? Lo fa il tiro normale, dei turni successivi lo fa in svantaggio per rendere più facile la possibilità che ti sveglino. Devi vedere un attimo come bilanciare la cosa. Perché chiaramente se tu come caster continui a avere successo, la gente che sta dormendo continua a dormire, cioè diventa forte lo stesso. Beh, no, si può tranquillamente provare. Basta che mi avvisi. Sì, ora sono stanco, quindi qualunque cosa faccia io la faccio a mente fresca. Però mi metto in genere a calcolare proprio le statistiche per queste robe numeriche. Anche perché Mif c'ha tipo 18 di raggio per un eromancy. Sì, è una roba folle. Ah, cioè, le spell tier 2 sono volutamente forti, non ci sono quelle tier 3. Ma ci sta, ci sta. Però un conto è essere forte, un conto è... mi trucido le palle mentre sto... Sì, esatto, cioè lì non è forza, è... Sì, verissimo. Ci sta. Chi vince tra magia del sonno, i tier 2 o queste mani? Ste mani. These hands. Ah. Ah, Pjanic, non abbiamo ancora deciso il nome per il drago. Spoiler. Quello di Eddie? Sì. Non avevo nessun dubbio. Ah, dove ne sai che l'ha scelto super in fretta? Sì. Cioè, c'ha avuto proprio la folgorazione e... boom, fatto. Ci sta. Sa perché? Dipende. Certe cose... altre cose. Sì, diciamo. No, non sono contenta dei miei disegni che ho partorito. Cosa hai fatto? Mi sto allenando. Sto ritornando alle mie origini. disegnare draghi. E se vuoi, è che devo solo mettere su Discord. Invece. Dimmi. Dov'è che... li possono andare su Discord. Dove cazzo ti pare, welcome, se li vuoi che li vedano tutti, altrimenti la chat di questo canale, general, dove quello che vuoi. Se hai permesso di postare ci puoi mettere quello che vuoi. Metti qua nella chat di The Slumster. Infatti adesso, dato che ti ho esercito il telefono. Tutto qui? Sì, anche il disegno draghi, ma tu hai fatto lo Smogust quest'anno? No, oh, avrei voluto. Mi sa che me lo vedo sono... in questi giorni, lo claccio. Sono 3 anni, mi sa che non faccio lo Smogust. A me non sempre disegnare piace, devo essere sincera. Ah, belli, ci dovrebbero dire, yes. Io ho fatto qualche disegno di recente, perché adesso non sto disegnando. Cioè, l'ultima cosa che ho fatto era Nipper, figurati. Ci sta. Io ho ripreso dopo che sono tornata da vacanza. Cosa ho fatto di creature? Questo di recente. Che comunque ti seguo su Instagram, cioè vedo i lavori che fai. No, mi segui? Certo, ma tra l'altro prima che Pianic mi desse il tuo profilo, perché mi fa così, ma c'ho sto che anche lui è un artist, io gli dico cazzo, il profilo Instagram me lo manda e ti seguivo di già, cioè quindi di mio ero... Oh, okay. Ottimo. Bene, bene, bene. Sì, no, fai dei super lavoroni, bravo. Sei veramente bravo. Grazie. Lo spanno da fare creature a disegnare Gatomon in cosplay. bisogna essere flessibili. Ho fatto una barca di soldi, guarda, che è 3 euro a Gatomon ogni volta. effettivamente. Poi tra l'altro non li ho neanche postati tutti qua, perché l'ultimo che ho postato è stato a febbraio del 2024, perché poi a febbraio del 2025 ho aperto di nuovo le commissioni, ho fatto tipo il doppio di quello che sono qua, quindi ho fatto un po' di soldi. Nice. Ho fatto quasi più soldi a fare... No, non è vero. Perché... Mi ha dato molto rispetto a... Cosa, come si chiama? Typhon, che Typhon mi ha occupato tanto di quel tempo, madonna. Anche perché l'ho dovuto fare due volte. Che me l'ha ricommissionato di nuovo. Ah, ok. No, stavo dicendo, perché due volte? Perché la prima volta me l'ha chiesto normale, quindi tipo vulcanico, eccetera, eccetera. E poi mi ha detto, ma non è che me lo rifà di nuovo tipo con una skin diversa, come se fosse stato colpito da Zeus. E ho detto, va bene, ok. Sono altri 180 euro, per favore. Tanto. È un prezzo molto onesto, sai? Sì, cioè, perché era tipo 150 il full render, però poi ho chiesto un attimo di più, perché sai come disegnare 100 teste, un po'... No, no, ma infatti... provante, diciamo così. Bene ragazzi, io mi sì, anch'io. E ci si sente nei prossimi giorni. Va bene, ciao ragazzi, grazie di essere passati. Ciao ciao. Ciao, buonanotte, grazie.